allora parlo con la zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, niente male. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono il vicino di casa di Cruciani, abito al piano di sotto. Volevo dire che Cruciani alla mattina mi ruba il giornale, alla sera parcheggia sempre nel posto degli handicappati e la notte scorreggia come un dannato. Non ne posso più. Veramente arrivano delle delazioni e delle falsità su questo numero di WhatsApp che è incredibile, eh? Cioè delle falsità totali. Non è detto, ma come non è detto? Controlleremo. Ma se anche uno scorreggiasse a casa, secondo te si sente, si sente vanno sotto? Vanno rispettati, sono ascoltatori, vanno rispettati. Qualunque cosa essi dicano, vero? Ma caro, sì, va bene, infatti il mio amico scorreggione, pedofilo, maledetto violentatore di domestiche Cruciani. Pedofilo, anche tu vuoi essere querelato insieme al signor Vassallo? L'ha detto un ascoltatore, no? Va benissimo, un ascoltatore. No, l'ha detto, non era un ascoltatore, era un ospite. Traffico, borsa, perfetto così, benissimo, ancora avanti. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, Valdonega, o Valdonega, non so come si chiama, provincia di Verona, un avvocato, rientrando, ha trovato i ladri in casa, ha fatto fuoco in alto, in aria, con un fucile a pallettoni, ovviamente denunciato. Denunciato per aver sparato in aria e aver messo in fuga i ladri. Un avvocato di Verona. Forza, avanti! Avanti tutta! Avanti tutta! Resistiamo! Cosa, resistiamo contro chi? Contro le assurdità delle indagini. Ma denunciato. È una legge che lo prevede. Sbagliato, mamma sbagliato, mia. Sbagliato. Ho scoperto delle cose su questa tua signora cannata. Su questa attrice che parezzo dopo te la cucineremo molto bene, la signora ospitato, la signora cannata. No, perché tu dicevi altro che nappi. Abbiamo scoperto delle cosine. Per fare una battaglia. Una, si è spogliata per fare una battaglia. Una battaglia, si è messa in una gabbia e ha recitato. Amici miei della zanzara, sono solo le 18:37, non posso mandare in onda degli stracci di un meraviglioso film. Di sì, un film meraviglioso. Brass. Ma che Tinto Brass? Ma quale sì, Tinto Brass? Ha partecipato come attrice a un film. A un del film maestro di Aurelio Grimaldi, dal vabbè titolo La Donna Lupo, 1999. Lupo. Lo potete vedere integrale su YouTube. E che male c'è? Integrale su YouTube. Vi dico solo questo, non posso dire niente. Andate a vedere un film con una splendida attrice, la signora Cannazzi. Sì, ma perché infatti, benissimo, benissimo. E non può diciamo, essere faceva vegano, molto meglio l'attrice, assolutamente. Faceva molto meglio l'attrice che la militante vegana. Però è meraviglioso perché in queste cose riusciva molto bene. Vai a vedere quel film. No, ci no, sono no delle scene. Come no? Di film cosa di Grimaldi, animali, 99. Di cosa una donna a caccia di uomini, la donna lupo. Donna la cacciatrice donna di uomini. Lupo. La donna lupo. Ma film diretto da Aurelio Grimaldi. Vabbè. 1999. Integrale su YouTube. C'è qualsiasi cosa che riguarda il sesso. Tutto. Tutto. È ritornato il governatore del mondo, signor De Luca. Signor De Luca alla direzione del Partito Democratico. Così ironizza su Roma, le primarie, Giachetti, eccetera, eccetera. Qualcuno si è meravigliato del calo dei partecipanti al voto a Roma, 40.000 votanti a Roma. Io mi sono meravigliato dei presenti, 40.000 cirenei che sono andati a votare. Avevamo candidato, chiedo scusa, già Giachetti e Morassut, mica erano Brad Pitt e Raul Bova. A ancora il governatore. Rispettare, se uno è idiota, il governatore del mondo, De Luca. Io credo che ci debbano essere valutazioni di merito, che si debbano rispettare gli equilibri e i pluralismi interni, ma se uno è un idiota, che sia minoranza o maggioranza. Bisogna vedere ovviamente chi è che lo considera idiota, però da dove viene il giudizio. Comunque a chi si riferiva? Il governatore del mondo, non lo so, probabilmente a quelli che sono contro Renzi all'interno del partito. Il problema è molto semplice, De Luca, non si può contrastare, capito? Non si può criticare, perché uno quando è il governatore del mondo, dell'universo, sai, è difficile pure, no? Cioè, l'abbiamo messo in questo piedistallo, in questo piedistallo è un po' come Sgarbi, no? Cioè, come fai a contestare Sgarbi? È difficile, no? Cioè, Sgarbi, uno dice, vabbè, Sgarbi, no? Oh, Berlusconi si è ricordato questa mattina di avere 5 ville in Brianza, Perché mi sono accorto stamattina di avere 5 case in Brianza, 5 ville, perché la Brianza era il posto di villeggiatura dei milanesi. Non mi ricordavo di averne 5. Che bello, quando uno non si ricorda quante proprietà ha, no? Cioè, uno non si ricorda, mi sono ricordato di avere 5 ville in Brianza. Poi c'è Grillo che oggi ha parlato. La frase più significativa è questa: se la Raggi non vince, mi do fuoco in piazza. Questo è molto bello, Questo è molto, molto, ma no, mica perché voglio che Grillo si bruci in piazza. Metti che non vince, secondo te lo farà per davvero? Davvero si brucerà in piazza come un bondo? Questo non credo. Se la Raggi non vince, mi do fuoco in piazza. Io non capisco come una persona non voti una persona come la Raggi. Non lo capisco. Oh, naturalmente, fottendosene della par condicio, questa trasmissione si schiererà. Cioè, non siamo almeno i singoli conduttori, non questa trasmissione, naturalmente. Non è che faremo campagna per qualcuno, tranne in alcuni piccoli casi. Però si schiererà apertamente, cioè io dirò chiaramente per chi voto fino all'ultimo giorno, me ne fotterò della par condicio di tutta la regola del cazzo. Milano, Roma, si sa già chi voterà a Milano. No, non è vero per niente. No, io ero incontrato Sala a Tiki Taka, abbiamo parlato della vicenda della Rozza, gli ho detto chiaramente io veramente non so per chi votare, cioè è difficile che voti per quello dei 5 Stelle, potrei votare anche per Corrado, quello dei 5 Stelle non è detto, sono incerto tra tre persone, Corrado, Sala e ovviamente Parisi. Per tutti, quindi. Vabbè, ma sono incerto, che cazzo vuoi, no? Ancora devo vedere bene le cose, cioè, non conosco bene nessuno dei tre, vediamo. Comunque Grillo ce n'è anche per noi, La Confindustria mondiale non gli piace che ci sia un sindacalista che faccia il presidente del Brasile, non gli piacerà mai. E allora portano in piazza con l'informazione falsata, indegnamente falsata, a rovesciare dei governi messi lì dai cittadini. Questo è quello che sta succedendo anche in Italia. C'è una Confindustria che gestisce, ci sono le banche che gestiscono. Ma dove ha mai visto una Confindustria che ci abbia una radio e un giornale? Al mondo. Dove? Dove? La Confindustria? Che cos'è? Chi c'è dentro? Beh, chi c'è dentro è... Ma chi è questa gente? Boccia, Barisoni, Napoletano... Ma ragazzi, ma di che parliamo? Ma che gente è? Cosa decide? Una radio dove c'è un signore che si chiama Cruciano, che tra l'altro ha un nome anche schifoso, Cruciano, che gli danno una trasmissione dove insulta la gente quando chiamano. Ma com'è possibile? Ma chiuso tutto. Il grande complotto della Confindustria attraverso la radio e il giornale. Il mondo va un po' diversamente, caro Grillo, va molto diversamente. Comunque, a me è sempre simpatico Grillo perché è un comico eccezionale, formidabile, il migliore di tutti, primo in assoluto. Parla pure dei vegetariani, Cioè io non posso vivere con la paura che se faccio una battuta sui vegetariani mi chiama l'attivista di Benevento e mi dice ai banchetti c'è gente incazzata, tutti i vegetariani perdiamo 1 milione di voti. È una questione anche di libertà mentale. Cioè, questo è strano. Su questo ha ragione. No, lui dice io voglio tornare a fare il comico perché mi sono rotti i coglioni di fare una battuta sui vegetariani. Ma quello dice anche dal punto di vista dei voti, dice chi se ne frega. Ma che vuol dire? Uno se ha un'idea a prescindere ragione, dai voti, no? Ragione, ma ragione, bravo, ma che ha ragione? Ma quando mai? Che ha quel cinismo politico anche lui, no? Voglio essere libero E allora sei come gli altri. Sì, allora certo. Sei come gli altri, non sei vero questo, come gli altri. In questo mi piace, infatti, Grillo. Sì, cioè ha lo stesso cinismo, cioè si trattiene, non può dire tutto quello che, esatto, pensa, per esempio sui vegetariani, perché portano voti. Beh, allora è esattamente come gli altri. E in questo, bravo, uguale. Grillo. Ma bravo Grillo, perché si è, perché ovviamente va dalla tua parte. Perché si è smascherato. No, perché ha tirato fuori la sua vera natura. Oh, è tornato Barnard a dire che Israele è uno stato terrorista. Il signor Barnard. Signor Barnard. Tornato Barnard. Israele è il più grande stato terrorista del mondo. Ha ucciso 19.000 persone in Libano. Lei non ha detto niente. 19.000 morti di Israele erano contadini sciiti del Libano. Israele, stato terrorista, ha ammazzato 19.000 persone. Sì, sai in che alla fine di questa discussione c'era già fuori un'auto con delle luci sopra. Delle persone bianche sono entrate nello studio, nella pubblicità, l'hanno prelevato e l'hanno portato nella struttura sanitaria più vicina, agli studi di colori di. Allora, ci sono polemiche, tu ti incazzerai come una bestia. Per Striscia la Notizia, che ha realizzato un servizio in cui praticamente fanno una specie di finta gara tra gli immigrati del CARA di Bari che saltano, che cercano di scappare. Loro trasformano la fuga, diciamo, o comunque la, sì, la fuga degli immigrati che sono al centro di Bari in una specie di gara di salto con l'asta, o di salto in alto, di salto, gara di salto, gara di salto, capito? Con tanto di palette con i voti, capito? Con la conduttrice araba, non so che hanno preso, una cosa pazzesca, senti. Italiani, siamo ancora qui al campionato mondiale del salto dell'inferriata. Purtroppo al CARA di Bari continua a piovere e i giudici stanno valutando se far gareggiare i nostri atleti anche oggi oppure no. Signor giudice, cosa ne pensa? E allora si gareggia! A voi, buona visione! È già sull'ostacolo il campione marocchino. Riuscirò ad essere imparziale? Lo vediamo tentare il passaggio con la tecnica Fosbury, ma ai ai ai, sembra che il suo vero ostacolo sia la panza. Niente, non ci passa, tutto da rifare, il couscous non perdona. Speriamo che la giuria non lo penalizzi troppo. Tenta ora la via più tradizionale, ma è lento, appesantito. Ecco, scavalca finalmente. Ai, questo passaggio deve essere particolarmente doloroso e temo che anche il giudizio della giuria farà piuttosto male al mio connazionale. Infatti, 5, 2, ma la Francia ci salva. Merci! Barracuda! Allora, dai, dillo che è uno schifo. Dillo, no, è uno schifo, verità, una vergogna, no, no, dillo. No, no, la verità, credo che, spero, mi auguro che gli autori di questo servizio lo abbiano fatto col solo fine provocatorio di far vedere la brutalità, no, di quel, no, campo, no, non c'è, e nessuna voglia, non c'è, e della voglia che, senti, ha, se l'avesse la fatto, gente di se l'avesse via fatto uno della Lega, tu avresti detto che è una, no, ma avresti parlato di nazismo. Beh, dunque abbi il coraggio di dire dal tuo punto di vista che Ricci il lavoro che è fanno un criminale, che no, Ricci è un criminale. Io credo è Striscia, che lo abbiano, no, fatto con lo, no, non l'hanno fatto, te lo dico, non l'hanno con fatto spirito, come dire, provocatorio e di denunzia. Devi avere... Se è soltanto uno spirito ironico per pigliare per i fondelli questi migranti, quella è una vergogna. Se è fatto per giocare con non loro, mettere, se non hanno fatto cosa, nessuna campagna non sul visto cara. Se, vabbè, invece è un modo per mettere in evidenza la disumanità, ma il fatto, quale che disumanità, scappare, ma che cosa, ben venga il paradosso che anch'io utilizzo. Non hai capito ancora, non è, ti ho detto, non c'è nessuna denuncia di niente. Hanno preso per il culo quelli che saltano l'inferriata, punto e basta, dandogli dei voti. Quello c'ha la panza, quello ha mangiato il couscous, quello viene dal mare, se quello hanno viene... fatto solo questo è l'immondizia, è un'immondizia, non l'ho, beh, visto. Se hanno fatto questo, sì. Se invece c'è un intento, vai, come dire, traffico, iperbolico e... Agli stronzi sgonfiate le gomme. No reato, no pena. Traffico. La Zanzara. Allora, Marco Travaglio oggi sul Fatto ha scritto: Maria Elena Boschi trivellata dai magistrati di Potenza. La frase è questa: ieri Matteo Renzi, in grandi ambasce per Maria Ele, che in quel mentre veniva trivellata dai PM di Potenza. Allora, molti hanno interpretato questa frase di Travaglio come una frase sessista. Renzi in grandi ambasce per la Boschi che perché veniva trivellata dai PM di Potenza. Calambur, tecnicamente. Scandalo, sì, la peggiore misoginia. eccetera eccetera. Molti deputati del PD renziani che attaccano, ne ha fatti il fatto di meglio, diciamo, di queste sue, come si guarda, dice, io immagini, quando no? si tratta no, sì, ne ha fatti di più divertenti, di migliori. Io poi, non so se c'è un intento sessista, cioè Renzi preoccupato dal fatto che i PM di Potenza trivellano, e qui la metafora sessuale, il trivellamento, no, della Boschi, ma chi se ne frega. Cioè, non mi pare una cosa, è il modo in cui scrive Travaglio che è questo, cioè non c'è niente di diverso da altre metafore spesso sessuali su attributi delle persone, fisici delle persone, su, sul fisico delle, dei protagonisti, può piacere o non piacere, fa così da una vita, ma non mi pare una mancanza di rispetto per la donna Maria Elena Boschi, ecco. Il PD dice non rispetta il corpo delle donne. Io quando sento questa cosa del corpo delle donne vado ai matti. Cioè quando qualcuno dice bisogna rispettare il corpo delle donne, che è una cosa che cazzo vera, vuol dire, è un'obietà, ma non vuol dire niente, non è una frase vuota. Io siccome odio le frasi vuote, quando uno mi dice Travaglio non rispetta il corpo delle donne, io quando sento il corpo delle donne automaticamente do ragione all'altra persona senza nemmeno guardare l'oggetto della discussione. Quando uno pronuncia questa frase, il rispetto del corpo, che non vuol dire un cazzo, non vuol dire rispetto della donna, perché il rispetto della donna significa il rispetto di un altro essere umano qualsiasi, cioè non è che bisogna avere più rispetto della donna rispetto a quanto lo si abbia per un uomo, capito? È uguale, è identico, deve essere la stessa cosa. Non è che c'è una legge che protegge di più la donna rispetto all'uomo. Beh, perché si dà per scontato il fatto, ma quella che le donne è una minchiata, vittime più ma degli uomini è... di violenza, allora, e abusi. Io non no? voglio sentire la parola il corpo delle donne, vado ai matti. Vado ai matti, vado ai matti. Perché... vado ai pazzi. Federico da Roma, vai. Sì, pronto? Dimmi, dimmi. Sì, volevo muovere una critica a David. Muovere una critica, sì. Bella espressione, perché, muovere una guarda, critica. Io sono d'accordissimo con l'apologia dei migranti. Perché sono il bene di un paese, favoriscono l'economia dei paesi. Vabbè, dove poi, oltre a questa banalità, ha difeso i nazi, i migranti, quelli che pretendono il denaro contante piuttosto che le tessere per i beni di prima necessità. Perché lui sa meglio di me che quel denaro che loro chiedono in contante non lo utilizzerebbero necessariamente per i beni di prima necessità, punto primo. Punto secondo, addirittura... Che possano imparare il valore del denaro, certo, attraverso il regalo del denaro contante è una cazzata grandissima. C'hanno la tessera, gli diamo la tessera, tessera, gli diamo la tessera. Però, scusate, siete un po' in si accontentassero della tessera. Che punto differenza e basta. C'è tra la tessera e il denaro contante? L'unica cosa che io mi sono permesso di dire è che se gli diamo il denaro contante e anche un mediatore culturale che ma gli che sta dietro, c'entra il mediatore spiega, culturale, eccetera, mamma perché mia, tu il non puoi buttare culturale. Uno in una cultura, in una civiltà, il in un mediatore contesto culturale. E digli to, questo è il rancio, David, boom, riso, David, questi sono i soldi, to, fai quello che te pare, cioè, ragazzi allora, miei, ma che differenza c'è tra la tessera, ragazzi, scusate, vogliamo andare oltre per favore, grazie. Alessandro da Reggio Calabria, ciao, dimmi, io volevo domandare come mai siete contro gli animali. No, nessuno è contro gli animali qui. Questa è una semplificazione, una generalizzazione ridicola di associazioni animaliste patetiche che non hanno senso. Chiaro, Alessandro? Nessuno è contro gli animali. Lascia stare gli animali. Io non odio gli animali, amo gli animali, ma li considero sostanzialmente al servizio degli uomini. Chiaro? Cioè, sono inferiori e al servizio degli uomini. Ma chi ha detto che non bisogna rispettarli? Che sono? Che voglio abolire le leggi che determinano il rispetto degli animali? No, non ho mai detto questo in nessuna trasmissione. Però è chiaro, cosa dire, quello è il problema. Vabbè, ma questi sono affari nostri, se tu ci segui significa che abbiamo qualcosa da dire. C'è la superiorità dell'essere umano sull'animale che va affermata in maniera chiara, senza ipocrisie, chiaro? Cioè, altrimenti comunque, siamo alle minchiate assortite. Esistono forme di ossessioni, è evidente, ognuno ha la sua ossessione, ma noi ne abbiamo tante, io ne ho qualcuna, Parenzo forse di meno, ma sempre di ossessione si tratta, ognuno di noi ha delle piccole ossessioni. Qualcuno vive con l'ossessione comunque che l'animale sia uguale all'uomo, no! La superiorità dell'essere umano sull'animale deve essere affermata senza ipocrisia. Bisogna sempre rispettarli. Oddio, che palle! Sì, certo, bisogna rispettarli. Abbiamo capito. Altro. Grazie, grazie, grazie di questa comunque, banalità. Aspetta. Dimmi. Comunque, tutto quello che dici, dimostri per me di essere un piccolo uomo. E scanzi con una pisciata ti allaga. Vabbè, scanzi con una pisciata mi allaga. Bravo, bravo, Alessandro, hai fatto la tua comparsata. Bravo. Allora, il mitologico Bonanno dice, tifoso della Juventus, la solita sceneggiata napoletana per le quattro meritate giornate di squalifica Higuain. A Napoli, se lavorassero come piangono, non ci sarebbero neppure, non ci sarebbe neppure un disoccupato. Chi è questo qui? Sio Bonanno, tifoso deputato, della Juventus, dice. Deputato europeo Lega Nord. Deputato europeo. Nonché tifoso della Juve. La solita sceneggiata napoletana per le quattro meritate giornate di squalifica Higuain. A Napoli, se lavorassero come piangono, non ci sarebbe neppure un disoccupato. Deputato europeo Lega Nord, signor Bonanno. Quando sento la zanzara, sento profumo di libertà. Si impara all'estero, l'importante è imparare ai migliori e tornare per applicare il know-how che hai preso all'estero. Io sono contento nel mio piccolo di fare qualcosa nel mio paese, cioè quello di tornare, di lavorare con musicisti italiani, fare concerti, fare CD e tour in Italia. Qualcuno torna, è vero, ma sono sempre di più quelli che se ne vanno. In Italia, secondo me, non si può parlare di circolazione di talenti, ma è solo fuga. È sempre il discorso della meritocrazia, che in Italia non esiste, è un dato di fatto in tutti i settori. A Giovani Talenti ogni sabato vi raccontiamo l'emigrazione, l'espatrio, la fuga dei nostri migliori talenti. Puntiamo il dito contro la peggiore Italia, quella che vi obbliga ad andarvene e che ostacola l'innovazione, l'Italia degli amici, dei figli, dei parenti. Allo stesso tempo, incoraggiamo chi decide, con coraggio, di tornare e cambiare le cose. Sono Sergio Nava, vi aspetto con Giovani Talenti ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. La Zanzara. Sto aspettando l'autobus e cosa mi passa davanti? Una donna con un cane nel passeggino. Siamo al top. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei! 800240024 oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393-7171-701. Beh, siamo veramente al top, siamo veramente al top! Annuncio, messaggi e numeri di telefono by Paolo Ruffini, Parenzo. Molto bene, grande cameo, grande cameo. Allora, mi segnalano che c'è un giocatore di non so che cosa, se rugby o pallanuoto, che si chiama Martino di cognome, che solamente per aver detto che mangiava tre polli a colazione ogni giorno, colazione, pranzo, merenda, eccetera. Tanto tre polli però. Ma non lo so, comunque sono andati a rompere i coglioni gli animalisti come al solito, perché ha detto semplicemente perché mangiava, io non ne posso più. Io vorrei uscire fuori da questo incubo, ti giuro. Bisogna uscirne da questo incubo dei nazi vegani. In non un modo o ingaggio una battaglia così. Totale. Cioè ingaggiare una battaglia totale, o muoio io o muoiono loro, cioè la battaglia totale, finale. Cioè la battaglia finale oppure non ne parliamo più. Cioè, in qualche modo bisognerà uscire da questa cosa, o no? No, non ne puoi uscire ormai, è più forte di te, sei entrato in questo labirinto vegano. Francesca da Roma, vai Francesca da Roma. Prima però voglio farvi sentire l'ennesima sceneggiata napoletana a cui ho dovuto assistere ieri sera durante la prestigiosissima trasmissione Tiki Taka condotta dal mio amico Pierluigi Pardo. Allora, cosa è accaduto? Cosa è accaduto? E c'è stato l'intervento. Quando tu parli esattamente di sceneggiata napoletana, sì, fai forse riferimento al nome di una mozzarella? Sì, adesso non è una mozzarella, è un giornalista. Di un produttore di mozzarella. No, è un giornalista di Napoli, conosciuto. Di Salerno, Auriemma, è un produttore di mozzarella di Salerno. Sì, d'accordo, Auriemma, però è anche un cronista napoletano, anche apprezzato nel napoletano e dintorni. Il cronista napoletano. Il portavoce del Napoli. Ma no, adesso il portavoce del Napoli. Diciamo che è vicino alla presidenza partenopea, come possiamo dire. Io direi che non ho mai sentito nelle sue parole un momento di biasimo della dirigenza del Napoli. Nei confronti di Laurentiis. Non sì. ho mai sentito nei confronti dei calciatori, soltanto una volta, commenti sgradevoli. Ma no, quello no. Poco, criticare la presidenza governata dal signor De Laurentiis, non ho mai sentito parole tu di dici urla. Tutto, dici schiena dritta, dici schiena dritta. Beh, schiena dritta, faccia pulita con la società Calcio Napoli. Legittimamente, per carità. Vabbè, allora, signor Auriemma sostiene una cosa molto semplice. Sostiene che c'è un'altra classifica. Cioè che se contiamo gli errori arbitrali tutti a favore della Juventus, o comunque nessun episodio sfavorevole, dice il signor Auriemma, avremmo un'altra classifica. Ragazzi, io un'altra cosa di cui non ne posso più è il piagnisteo napoletano sulla questione di Higuain. Due pesi e due misure, Higuain da una parte, Bonucci dall'altra, è diventato una specie di romanzo nazionale. È una puttanata inaudita, una puttanata. Hai perso a Udine 3-1, amico mio, di cosa vai a protestare su due pesi e due misure? Quello ha fatto il matto e becca quattro giornate, punto e basta, dai. In base a queste moviole c'è una classifica secondo la quale le posizioni sarebbero diverse in base alle decisioni modificate. È così, Graziano. C'è una classifica secondo la quale l'unica squadra che non ha episodi a sfavore è la Juventus. Vabbè. Vuol dire che gli arbitri sono molto attenti. Assolutamente. Ma è come dici tu, invece con altre squadre. Saremmo perché al il signor Irrati. Hai ragione. Concludo, il signor Irrati. Ma se in Torino Juventus non ma valuta quell'intervento bianchi, come Raffaele, giallo, perché i lo valuta bianchi. Ieri in scusa Bologna me. Juventus il signor Irrati non ha ammonito Bonucci diffidato per un intervento killer su destro. Io non ho mai fatto classifiche perché rifiuto questo termine. Bisognerebbe prendere in considerazione ogni minuto della partita e poi come si fa a dire che quell'episodio. Ah, Auriemma. Come combatte, poi a un certo punto ha detto: beh, il Napoli è frustrato e anche un sì. po', diciamo, depresso perché gioca sì, sempre sì. dopo la Juventus. Amico mio, ti ho dimostrato, numeri alla mano, date alla mano, che nel 2012, adesso non voglio addentrarmi in cose calcistiche che non interessano tutto il nostro pubblico che è variegato, non è che si interessa di calcio, di queste piccolezze, che nel 2012 la Juventus, dove vinse il campionato, giocava sempre dopo il Milan. Sempre dopo il Milan. E non c'era il piagnisteo su questa cosa qua. Il piagnisteo. Adesso potremmo citare il signor Buonanno. Però Buonanno è un deputato, si assume le responsabilità, io lo posso dire. Citare Buonanno? La solita sceneggiata napoletana per le quattro meritate giornate di squalifica Higuain. A Napoli se lavorassero come piangono. Questo io non l'ho detto, ovviamente, non sono d'accordo. A Napoli se lavorassero come piangono, non ci sarebbe neppure un disoccupato. Cioè, ha dato praticamente degli scazzafatiche ai napoletani, signor Buonanno. Francesca da Roma, vai, Francesca. Ciao, buonasera. Senti, dimmi, io tralasciando il discorso Higuain che non mi interessa, direi che parlando di Buonanno è vergognoso che in Italia c'è un deputato che mischia l'essere juventino con l'essere deputato. Che cavolo c'entra il Napoli che lui è juventino in questa cosa? Tu sei napoletana? Io sono napoletana, vivo fuori per lavoro, sono dovuta andare via perché a Napoli cioè, non tu dici, c'è lavoro. Beh, a Napoli non c'è lavoro adesso. C'è Napoli, poco lavoro, c'è meno lavoro, c'è poco lavoro, per cui se fossi voluta rimanere a lamentarmi a casa mia me ne sarei stata con le mani in mano. Non contesto. Sì. Tu dici, buon anno, siccome è deputato europeo non deve parlare di pallone, però questo abbi pazienza. Cioè, No, lui ha mischiato il napoletano con la sceneggiata napoletana solita con... E la disoccupazione cioè in generale. È la disoccupazione, cioè è una frecciatina diretta. Beh, una frecciatina. Ha detto che i napoletani sono degli scansafatica in sostanza. A Napoli, se lavorassero come piangono, non ci sarebbe neppure un disoccupato. Significa vorrei che non... vedere la mia giornata e quella del signor Buonanno e vedere chi lavora di più nella giornata. Cioè, poi ha detto, signor Buonanno, deputato europeo della Lega Nord, ha detto che a Napoli non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Esatto, alla fine di tutta questa cosa, io direi a tutti i miei concittadini che votano la Lega e che anche non solo. Quelli che sono a Napoli, anche quelli che sono nelle altre città d'Italia come me, che votano la Lega, attenzione a chi votate. Parenzo, ma non c'è noi Salvini a Napoli? Si presenta? Sì, c'è tutto un c'è movimento di Salvini? Gente. Sì, ma noi chi? Noi chi? Ma noi chi? Noi chi? Noi cosa? Ma noi che voi con Salvini? Ma si chiama noi, che vuol dire? Si chiama ma noi. Ma voi, è un'arroganza questo nome di partito, noi con Salvini. Francesca mi sembra piuttosto arrabbiata del signor Buonanno. Tu con Salvini. Mi sembra, ma ha ragione, ha perfettamente ragione. Francesca. Con tutta la Lega in genere, perché comunque, parliamoci chiaramente, ci considerano alla stregua di quei migranti che loro tanto trattano male. Sì, un po' è vero. Ma dai, i terroncelli meridionali. Cruciani, perché ci sono delle leggi che dicono che siamo italiani. Perché la, citando la signora Loras, che ha chiamato qualche giorno fa, che diceva tu di Loras, è la statista della Zanzara, la Loras, è un'amica di Cruciani, la Loras. Ma cioè, ma di che parliamo? Ah, perché tu ti senti italiana o napoletana? Io mi sento italiana, perché dovrei sentirmi napoletana? Che significa? Falla mettere in collegamento con la Loras, quella signora Loras, grandissimo genio. Perché qui c'è un fumo di cervelli, capito? Qui c'è un giro di cervelli. Però di il problema piano. Sai qual è, David? Sai qual è? Cara, che ci sono tantissimi napoletani che sono a favore della Lega. Vabbè, ma perché però, ma perché hanno fiducia magari più in questa cosa contro gli immigrati, no? I Rom, ma quello che c'è da capire è che loro ci considerano alla stregua, cioè io che vengo a Roma e trovo un lavoro, sono considerata alla stregua dell'immigrato che viene in Italia e trova lavoro. Vabbè, ma dai, non esagerare adesso. Sì, ma anche in passato usavano questo linguaggio dei confronti dei meridionali che venivano dal nord a lavorare. Va bene, grazie, grazie Francesca. Francesco, provincia di Macerata, vai, Francesco. Ciao, dimmi. Volevo testimoniare riguardo al film La donna lupo. Beh, qui siamo veramente al top assoluto. Ho visto una scena prima che mi ha entusiasmato. Devo dire la verità, il livello di pornografia è altissimo. Una è carica altissimo. Erotica eccezionale. Praticamente sì, diciamo che era vegana. Era il praticamente sì, la signora cannata che è diventata vegana. Prima in realtà forse era meglio se restava in quell'ambito. Invece di sparare cazzate sul veganesimo, sui macellai assassini, eccetera, eccetera, ha sparato questo? Una marea di cazzate. Ha sparato questo una lo dici di io, cazzate. Posso essere anche d'accordo con te, cioè non condividere, ma che c'entra questo con la sua brillante carriera cinematografica? Assolutamente, cioè, secondo me riusciva molto meglio in quella carriera questo lì. Questo è un giudizio tuo, ovviamente. È un giudizio mio, certo che è un giudizio mio. Parlo io, infatti. Per forza, scusa. No, signor Poli, prima, molto arrapato. Signor Poli, Riccardo Poli, molto arrapato. È un vecchio maiale, signor Poli. Sì, mi ha fatto vedere, guarda, vieni qui, mi ha mostrato nel computer una scena con lei che faceva una meravigliosa pompa. Si può dire, una pompa, cosa? Diciamo 27, una pompa, quella della. Non so di cosa tu stia parlando. No, quella delle biciclette. No, quella non delle biciclette. So di che cosa. Francesco, tu hai visto questo parlando. Film integrale, La donna lupo? Ragazzi, ne vale la pena. Guardate, andate tutti quanti a vedere. L'ho visto due volte e lo consiglio a tutti. Anche con i vostri figli, figli sedicenni. So. Sì, è gratis su internet. Sì, figli sedicenni, si può vedere. Figli sedicenni, La donna lupo. Okay, facciamo un grande favore, signora Cannata, eccetera. È gratis, in realtà non facciamo nessun favore. Comunque, è gratis su YouTube. Secondo me un po' di carne non gli faceva male comunque. Vabbè, dai, adesso questo è facile come battuta, Francesco. Caserma la più bassa, caserma la più bassa. Neanche la Loras, come si chiama? La Nones, come si chiama? Roberto Loras, sei fissato. Roberto, provincia di Fermo, Francesco, grazie. Amichetta Loras. Roberto, non è amichetta, è una signora che considera il Veneto la sua patria invece dell'Italia. Ma diciamo che è amichetta, tanto che ti frega. No, amichetta, scusa, la signora gente. Giochiamo sull'equivoco, tanto che ti frega, sono ascoltatore. Vabbè, dai. Sì, magari hai avuto una storia con la Loras. No, dai, non è ma io sento di sì. Roberto, provincia di Fermo, dai, non dire cazzate. Chi può smentire? Dai, Roberto. Pronto? Dimmi Roberto, dimmi. Allora, tutto bene. Prima di tutto mi piaci perché sei coraggioso, hai coraggio. Vabbè, adesso però a me i complimenti non mi piacciono, per cui lascio perdere. Io ti faccio perché sono un guerriero e mi piacciono. Vabbè, allora, poi? Vado subito al sodo. Allora, intanto i vegani hanno scocciato moltissimo. Hanno rotto i coglioni, no? Questo, hanno rotto i coglioni. Bisogna dire le cose come stanno. Hanno rotto i coglioni. Io sono un infermiere, lavoro da 42 anni in ospedale, so che l'alimentazione va curata in un certo modo. Quindi le proteine servono, quindi detto ciò togliamo tutto. Allora, Io ho insegnato sempre arti marziali, eccetera. Sì. Ho conosciuto la caccia 6 anni fa. Per quale è stato il motivo della caccia? Cioè, sei diventato cacciatore 6 anni fa? Cacciatore. E che cacci? Ma nulla, che vogliamo prendere. Allora, ma che questi nulla, qualcosa cacci, sennò che vai a fare? Spari in aria, che fai? Prendiamo qualche tordo, forse per sbaglio qualche fagiano che paghiamo noi con l'ATC. Vabbè, ma comunque tordi e fagiani. Sì. E non hai nessun senso di colpa, nessun rimorso? Assolutamente non ce l'ho. Bravo. Così bisogna dire. Non bisogna essere ipocriti. Oddio, il povero tordo, il povero fagiano. No, se uno li va a cacciare e poi magari li mangia, immagino. Bene, quello. Immagina, deve essere consapevole. Non ho nessun rimorso, perché gli animali sono al nostro servizio. Fermo lì, Roberto, e poi torniamo con calma. Viva la zanzara non si tocca, non posso stare senza zanzara. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta La Zanzara. Mattina e sera in macchina a Londra non si ascolta BBC Radio, si ascolta Radio 24, si ascolta La Zanzara. Cruciani, sto per entrare a farmi la doccia. Che fai, mi raggiungi? Beh, questa trasmissione sta diventando veramente una cosa incredibile, eh? Ci sono confessioni aperte. Lanceremo nei prossimi giorni, caro Parenzo, sempre sì, al numero di WhatsApp che sai, una grande casella postale diventerà per problemi di coppia. Cioè, chi ha problemi di coppia, chi vuole accusare delle peggiori nefandezze il proprio compagno, il coniuge, eccetera, sì, può mandarci un messaggio e mettere tutto in piazza, mandarci foto, numeri di telefono. Racconteremo le vostre disgrazie. Cosa avete da dire al vostro partner che magari vi ha fatto una porcheria pazzesca? Sì. Cercheremo anche la riconciliazione quando è possibile. In particolare, io sono un maestro della taormina per quello. Il numero è sempre lo stesso per i vostri WhatsApp, 393-71-71-701. Eravamo con Roberto della provincia di Fermo, cacciatore da qualche anno, caccia dei tordi e dei fagiani, che mangia, e mi sembra che siano anche molto buoni i fagiani, no Roberto? L'ultima volta che ho mangiato un fagiano risale veramente a tanto tempo fa, perché mio zio è un cacciatore, ogni tanto va in Serbia a cacciare, dove c'è una riserva. In Serbia. Sì, mio zio Enrico Cruciani, adesso pigliatevela con lui, naturalmente, è medico urologo. Magari ha voglia di essere tirato in mezzo, bravo, giusto? Però è un cacciatore, ma io non lo dico senza problemi. Qual è il problema? Non ho capito, perché uno si deve vergognare a essere cacciatore oggi in Italia. Capito, ma magari lui non è che ha voglia che 2 milioni di persone sappiano che lui è un cacciatore. Ma l'ho già detto, mio zio è un cacciatore, ho una famiglia che ha anche nel suo sangue il fatto di essere cacciatori, cazzo, bisogna dirlo con orgoglio, cacciatori, tu lo dici con orgoglio, Roberto? Certo, basta con questa cosa qua che uno deve essere sobrio, lo deve dire anche un po' vergognandosi, oppure non lo devo dire. Per esempio, sto cercando qualcuno che mi racconti la sua esperienza di caccia in Africa, di caccia grossa in Africa. Due o tre persone che contatto. Illegale o legale? No, legale, ovviamente, scherzando, magari Ma parliamo della caccia nostra qui. Fammi finire questa cosa. Sì. Due o tre persone che ho contattato mi dicono: no, ma tu sei un grande, eccetera, sei dalla parte nostra, però sai, non mi voglio esporre. Ma come non ti vuoi esporre? Ma io mi espongo, dico quello che penso. No, ma tu cacci i tordi che c'è prima. Manteniamo economicamente le aziende, manteniamo economicamente le fabbriche, manteniamo gli operai con il nostro hobby, come se fossimo i ciclisti che hanno la bicicletta. In più, pronto? Sì, ti sento. In più, forse questi non sanno, questi ignorantoni, no? Li chiamo ignorantoni. Allora, tutti gli uccelli che vedete in giro, i fagiani, le sarne, sono quelli che stanno negli allevamenti e noi paghiamo dalle 50 alle 100 euro all'anno. Quindi non sono animali liberi, ma sono animali di allevamento, e per fortuna ci siamo noi immessi per la caccia giovane e farci contenti. Fa bene tuo zio che va in Serbia e va a cacciare gli animali. Va bene, ciao Roberto. Più di questo che ti devo dire? Un'altra cosa, perché sei un guerriero, te lo dico. Dimmi. Allora, l'ultima cosa che ti devo dire è questa. Sì. Allora, i coglioni che dicono... Ma tu godi quando prendi un fagiano? Certo che godo, capperi. Godi, il mio cane. Quando il stai mio lì, cane, puff, il fagiano muore e tu godi. Certo. Ma giusto. Perché il fagiano è nato per essere mangiato. Perché deve mangiare le volpi? Perché deve mangiare i falchi? Perché deve mangiare le gazze? Queste cose qui, gli uccelli. Adesso, perché questi coglioni di Verdi non vanno sulla nidificazione? Noi veri ambientalisti non uccidiamo gli uccelli quando ci stanno i nidi, eccetera. Però adesso ci sta un aumento di corvi, gazze, volpi, eccetera, che stanno a fare stragi. Ok, no, ciao, sono, ciao, no, amico mio. Ciao. Vanno dette. Vabbè, ciao. Gianni, provincia di Ascoli, vai. Gianni, dimmi. Sì, buonasera a tutti. Dimmi. No, io volevo solo dire che quelle scene che vedevi su Striscia la Notizia non era per prendere in giro gli immigrati per dimostrare che possono scappare. Era per prendere che scappano e non c'è controllo. Allora avevo ragione io, non era una cosa. Attenzione, ho capito. Però Parenzo, se qualcuno No, un conto è Buonanno, i legaioli e questi qui che ogni volta fanno delle messe in scena contro i migranti. Un conto è un programma di denuncia, che può piacere o no, come Striscio alle Iene, che, come gli dicevo io, non avendolo visto, ma in questo caso mi sembrava impossibile che prendessero in giro i migranti che... No, forse non hai capito. Hanno fatto un gioco sul salto ma lo usano come provocazione il salto per far vedere che dovevano controllare. Con le, con le, scalette. Non lo fanno con l'intento con cui lo fa la Lega. Hai capito? Ma o no, certo, la differenza? Ma quella è una trasmissione e satirica, allora, che c'entra? È diversa ma la cosa. È una denuncia, trasmissione satirica, ma che usa l'ironia per la denuncia. Riesci a capire questo registro? Vabbè, o no? Sento, no, non c'è niente da fare. Tu, non c'è da sei... fare, tu non c'è da fare. Ma dai, tu avresti detto, devi dire, Ricci è un criminale che piglia ma per il culo i migranti. Lo direi su non altre hai coraggio cose. Di dirlo. Non hai coraggio di dirlo. Non ho coraggio di dirlo. Non hai coraggio di dirlo che Ricci è un criminale. Bisogna essere obiettivi. Io non lo dico perché per me possono fare il cazzo che vogliono. Quelli della Lega che fanno un uso politico del clandestino. Quelli con la paletta che dice ecco il salto, quello c'ha la panza, il couscous, quello se del male, quelli fanno quella... una no, denuncia dai, civile usando denuncia? L'ironia. Ma che denuncia? Perché questo mi pare di aver ma capito, quale denuncia? Ma ti ripeto, allora mi riprometto di rivederlo e poi ma se quale denuncia? Dicono che scappano, si sa che scappano. Mi riprometto no? di rivederlo okay, e poi bene, ti dirò se Ricci è un criminale. Mi riprometto di rivederlo. Ecco, se ti piace così. Mamma mia. Bestardo. Allora, praticamente è diventato sulla Juventus una specie di dietrologo e questo mi dispiace un po' perché lo conosco e la dietrologia... Dietrologo, come dietrologo? Dietrologo, no, dietrologo. Dietrologo. Sì, dietologo, forse si è affidato ogni tanto a qualche dietologo, forse ma no. Ma è l'amico Telese, come no? No, ma Mughini che c'è? Telese, no, è qui con noi, ciao. Davantologo. Come? Davantologo, perché è sotto gli occhi di tutti. Mi stupisco io! Ma no, Luca, è diventato... Bravo. Cioè. È la persona meno è, no è la persona scusa, no stai Peppino, zitto stai scusa, zitto è obbrobrioso quello che stai dicendo sì no questo è obbrobrioso la rigiochi 100 volte quella partita la Juve vince 10-0 ma che stai facendo Mughini adesso è mugolo, allora mugolo. Però obbrobrioso no però scusami Peppino. Luca non fare il pagliaccio adesso perché la cosa molto chiara è questa che sei diventato il dietrologo praticamente come Liguori forse anche peggio di Liguori perché almeno Liguori è della Roma tu ma sei a metà tra Roma e Cagliari cioè di un anti-juventinismo di questi viscerali dietrologici. Ma cosa c'è di dietrologo? Qua è, stiamo parlando di fatti che sono sotto. E quali sarebbero questi fatti? Non ho capito. Allora, quali sarebbero? Higuain, c'è un fallo che non viene fischiato, gliene danno uno che non ha fatto, viene ammonito per un fuorigioco che non c'era perché vabbè, incazzato. Tutto questo è opinabile naturalmente, stai quindi, dicendo non c'era il fallo, non c'era. Tutto questo è un arbitraggio falsato e poi sulla base di un referto che a quel punto è inappuntabile perché se tu sei ammonito, come sai, una giornata automatica. Vabbè, allora tutto una giornata automatica e quindi viene scarificato addirittura dovresti essere scaricato tre giornate, to 4 pure. Ma stiamo scherzando? E allora che cosa c'è dietro? Cosa c'è dietro? Non ho capito. No, non c'è dietro. I due pesi e due misure. Arbitri, tendenzialmente è doppio pesismo bianco-nero, la parola d'ordine. Doppio pesismo bianco-nero. Ma sei sì, come... ma lo pensi anche tu, la ma testa non può. Io lo penso, ma sei matto. Sai degli amici juventini che ti intimidiscono. Non lo so amici juventini c'è. Che mi intimidiscono ma tu sì, diventato, sarai... sei diventato il nuovo anti-juventino cioè dopo tutta ma la canea non, di questi no, anni è arrivato Telese adesso come no non sei sono anti-juventino tendenzialmente lucido perché la Roma lucido. Potrebbe essere pure avvantaggiata ma non mi piace vincere sporco cioè Auriemma ti fa una pippa voglio. Ma no voglio dai. Che la Roma vinca contro il Napoli con Higuain non ho quel tipo di sottocultura che no, tu vuoi che perda la Juventus e tu pensi anzi che gli arbitri tu pensi che gli arbitri... Che se la loro squadra vince col Napoli che è disinnescato da Higuain sono contenti, io no. Ma dai, Higuain su, è ma un, tu preferi... è ma un passo al record di miglior marcatore di tutti i tempi. No, però scusa, ma mi spieghi questa specie di soggezione juventina di cui no, si parla? Ma tu non puoi crederlo, è evidente che... cosa che non posso credere, non ho capito. È evidente che l'arbitraggio di Rizzoli Juve, a Torino-Juve è stato un arbitraggio che minimo, non so... andrebbe verificato perché cosa andrebbe verificato Bonucci, cosa andrebbero verificati cosa i conti correnti di Rizzoli eravamo che cosa? In, no andrebbe verificato il tipo di arbitraggio ma non ho capito Bonucci. Secondo te Rizzoli che guadagni ne ha che vantaggio ottiene così te guarda pure a te dai forza vai fino in fondo abbia... no ma non so che vantaggi e allora so perché dovrebbe arbitrare a favore della Juve beh, spiegami ma per mille motivi perché la signora ti intimidisce no perché molti perché la signora ti intimidisce ma di che parli servili o sono proni al potere molti colleghi ah nostri, tu dici Rizzoli pagati, no? Rizzoli è come i giornalisti servi di Renzi io non intanto osservo una parola che non mi piace proni a Renzi siamo cioè giornalisti proni a Renzi flessibili. Allora Rizzoli lecchino della Juve ma perché Giuseppe tu che no sei ma dilla chiaramente lecchino della Juve tu che sei troppo che sei non lo vuoi dire per perché hai paura che ti guareli non lo vuoi dire perché hai paura che ti guareli è legittimo per eccellenza ora per giocare con me mi dici che non esistono i giornalisti no o certo che esistono che certo che sì assolutamente però bisogna provare bisogna portare le prove la prova che a me colpisce di quello che è accaduto è che Higuaín, senza aver fatto fallo, perché questo penso si possa dire, no, questo secondo te ci sono varie, ci sono varie interpretazioni, ci sono varie interpretazioni, ma tu hai visto un fallo, varie interpretazioni, hai visto un fallo su Felipe, ci può stare, ci può stare, ci può stare, poi può essere un errore arbitrale, ma poi l'ammonisci, poi dopo averlo gli corri incontro, cosa che nessun arbitro, come ci spiega il maestro Cesari, come ti ha spiegato ieri, allora? Come spiega sempre, fa, gli corre addirittura incontro. Ma che gli corre incontro? Si avvicina e quello gli mette le mani addosso. Dai, Luca, su. Vabbè. E invece Bonucci che si è alzato e aveva la testa protesa, come si fa nelle migliori periferie del mondo. E quella, se permetti, un gesto che conosco. Ah, praticamente un bullo di periferia. Bonucci, un bullo di periferia. Con la testa. Mica lo dice perché pronta. Ha paura. La maggior le persone allora hanno paura delle querele. Cioè, dire che Rizzoli è Lecchino della Juve, lui non lo dice perché ha paura di essere querelato da Rizzoli. Perché... Ma intanto non uso questo linguaggio, però. Non ma hai detto come giornalisti tu. Lecchini? Hai detto che come giornalisti Lecchini? Lecchino, non ho usato il vocabolo Lecchino. Perché... Come no? Come per i giornalisti, no. Sì. Per i giornalisti no. Le usate. No, sei confuso. Forse Proni. Ma tu Proni. Saresti d'accordo? Proni, vedi, sposta il discorso. Ma io non sono affatto d'accordo con te. La Juventus ha vinto 20 delle ultime 21 partite. Fattene una ragione. 20 delle ultime 21. Fattene una ragione. Non sono della Juventus. Luca, fatevene una ragione. Tu, Auri, Emma, tutti i tifosi del Napoli che mi insultano. Liguori ha vinto 20 delle ultime 21. Punto e basta. Sulla prima pagina di Libero di lunedì. Se ti vedrai, non per citarmi, ma dico che è una squadra molto forte. Ma che c'entra quello? Ma quando la sequenza è a rischio scatta il correttore automatico. Cioè che sarebbe l'aiuto arbitrale. Cioè quando la sequenza è a rischio scatta il correttore che sono gli arbitri. E alcuni arbitri sono molto... Proni. Ma no, mica lo dice. È pazzesco, dai. Ciao Luca, ciao. Allora, c'è la mia amica Maglie che mi rimprovera di aver detto oggi Maria Libero... Giovanna? Sì, la mia amica Maglie. Ma Maria Giovanna? No, che mi rimprovera di aver detto che New York è una città brutta. Io la considero una città brutta, ma di che sei pazzo? Ma perché? Non ho capito, non quando si può dire... Quando hai detto che mi è sfuggito? Ti avrei sbranato alla giugulare. No, però scusa, io ho ma detto... Ma come fai a dire no, che... No. Ma come fai... Ma no, di... scusa, Varallo Sesia è brutta, perché è stata governata da un signore come Bonanno. Varallo è brutta, scusa. New York, Davide, ma sei pazzo? Davide, scusami un attimo, a parte che io ho detto, preferisco correre, si parlava di corsa, preferisco correre a Firenze, che è una città straordinaria dal punto di vista architettonico, dal punto di vista monumentale, piuttosto che a New York. Sono cose diverse. Mi volto intorno e a New York vedo solo palazzi praticamente uguali gli uni agli altri. Palazzi. Sì, uguali, identici, vedo non cambia nulla. Architettura straordinaria. Oh, a me non mi piace, la considero brutta, ma che cazzo vuoi? Considero brutta, brutta New York e straordinaria Firenze. Preferisco ancora da Firenze che a New York. Sono due cose diverse. Amica Maglia mi scrive: New York è una città brutta. Tu cambia spacciatore. Amica mia, ma. Sì, buona ragione la Maglia, giusto. Ma è incredibile, dai. Difensori italiani di New York, dai, su. Ma chiunque, non è una cosa strana, però. Fabrizio da Biella, vai. Ciao, Fabrizio Biella, dai. Sì, ciao, io sono di Biella. A proposito di quel servizio sulle Iene. Sì, con Bassallo, con Simo Bassallo, sì. Bassallo Maurizio, ecco, io adesso purtroppo sono in giro, non posso mettermi in contatto con una persona che era la moglie di questo qui. Questo qui l'ha messa incinta, due figlie l'ha abbandonata. Mi sembrava San Francesco. No, però ragazzi, però attenzione. Io ho contestato Bassallo per le idee folli che ha. Lo porterò in tribunale a tutti i costi. Cioè, lo dico qui e ammazzatemi se non lo faccio. Lapidatemi se non lo faccio. Lo voglio portare in tribunale perché mi ha dato del pedofilo. Perché mi ha dato non per le idee che esprime. Meno male, perché a me in passato dicevi no, ma non si querela. No, attenzione, è una cosa io sono d'accordo con te. È una cosa molto diversa. No, però. No, ma io sono d'accordo con te. Tu mi dicevi le volte quando ti insultano. No, ma che ti frega, David, che se mi avesse detto testa di cazzo, pezzo di merda, non avrei mai portato in tribunale. Io non avrei portato in tribunale. Se uno mi dà del pedofilo, lo porto in tribunale. Anche se mi danno del razzista, non mi interessa, non porto nessuno in tribunale. Se uno mi dà del pedofilo, lo porto in tribunale. Però Fabrizio, ti dico che il fatto che lui, come tu ci stai dicendo adesso, e te ne assumi la responsabilità, ha abbandonato la moglie col figlio, a me non me ne frega un cazzo, francamente. Cioè, Sai perché mi gira le palle? Scusa la parola. Perché vedere in televisione che dice che sono esseri viventi gli animali, ma anche i bambini sono esseri viventi, e quello mi ha girato i coglioni. Vabbè, però che c'entra perché... adesso la questione personale? Vabbè, allora che cosa avrebbe fatto? No, vabbè, sentiamo però, scusa. Non ti dico di più, devo mettermi in contatto con una persona, che è l'ex moglie, e se vuoi ti faccio chiamare da lei. No, fammi chiamare tranquillamente, ma poi vi assumete la responsabilità di quello che dite, frega, perché è diventato personaggio pubblico. Sì, ma è irrilevante. È diventato personaggio pubblico, Vassallo, doveva tra l'altro fare una manifestazione domani e ha annullato perché si è vergognato di quello che ha detto e l'hanno messo in mezzo i suoi stessi accoliti, i suoi stessi soci, dopo aver detto quelle minchiate. Però chi se ne frega della sua vita privata? Fabrizio, che cosa avrebbe fatto? Che hai detto prima, ha abbandonato la moglie? Ha due figli, ha lasciato la moglie senza lavoro, io le conosco appena. Che vuol dire ha lasciato la moglie senza lavoro? Allora ha lasciato la moglie, punto e basta, come succede a tante persone, cioè, o sì, no? Sì, esatto, però con due figli la moglie era senza lavoro. Cioè non dà un euro alla moglie, non ho capito, qual è il punto? Questo devo accertarlo. Vabbè, quindi, ragazzi, prima di dire una cosa per un'altra. Però, francamente, a me delle vicende personali di Vassallo, adesso, francamente, non me ne frega niente. Sulle idee folli si può discutere fin quando volete. Torna la Zanzara, grande richiesta degli ascoltatori, Parenzo, che sono impazziti dopo il suo primo intervento, il vero candidato a sindaco di Roma, altro che Bertolaso, altro che Marchini, altro che Meloni, sono pure troppi, altro che Giachetti, altro che Raggi, il candidato che rompe, il candidato che spacca, come si dice alla radio, il cavaliere, e dico cavaliere, Mario Auriemma, come Auriemma quello di Napoli. Mancava. Cavaliere, buonasera. Buonasera a tutti. Beh sì, tre volte l'ha detto, cavaliere. Allora, dico subito una cosa, cavaliere. Cavaliere di che cosa? Cavaliere del lavoro, giusto? Del lavoro. Sì. Scusa, sì. Cavaliere, ma non devi fare l'accordo con Marchini? Non ne parliamo, non discutiamo. Io adesso sto facendo destra, non parliamo di quel soggetto. Non parliamo di quel soggetto. Ma uno con questo accento come fa a governare Roma? Non può avere l'accento irpino. Ho capito, ma è proprio irpino a Roma, a Lazio. Accento destra, Italia Morale, accento destra. Italia Morale è il movimento, sì, ma noi Italia diciamo l'accento, morale. No al centro. Comunque al centro-destra che vuol dire? Perché Marchini che è? Non parliamo di questo discorso, daramo questo discorso, non ti rispondo su questo. Perché non mi rispondi su Marchini? Non ho capito. Non da volte rispondo su questo discorso. Ma alla fine rispondo. Vai da solo o no, cavaliere? Vaga da sola, vengiamo alle elezioni. Italia morale vincerà le elezioni. I sondaggi come vanno, cavaliere? Benissimo, alla grande vanno i sondaggi. Quanto, il 22, quanto c'hai nei sondaggi? 3%, figurati. Cioè, come fai a vincere col 3%? Ma se lo vedo, 0,5 sarà, guarda, te lo ma dico no, io. Ma che stai scherzando? Ma che stai scherzando? 3%. Come fai a vincere col 3%, cavaliere? Scommettiamo che non c'è ancora un mese di tempo, la stiamo lavorando, stiamo lavorando. Senti, ma la cosa principale che farà il cavaliere... Ma sarebbe il primo partito che vince col 3%? Immaginiamo il cavaliere, Mario Auriemma, sindaco di Roma. Innanzitutto che fai tu? Io mi trasferisco a Milano nelle stanze del Campidoglio lì, che fai, cavaliere? Che fai dentro il Campidoglio? Come lo organizzi? Guardiamo le strade, annulliamo i giochi il 2024, annulliamo che vuol dire lui, però, annulliamo, non sono manco stati ancora assegnati i giochi olimpici comunque. Ma noi già stiamo facendo campagne contrari. Italia Morale contro le Olimpiadi, vabbè, se lo montazziamo se ne fanno una ragione. Abbiamo chiesto l'appuntamento con il presidente del CONI, Il presidente del CONI. E domenica facciamo un volantinaggio Roma, Napoli e Milano. Ma su che cosa? Sulle Olimpiadi? Che c'entra Milano? Sì, facciamo un grosso volantinaggio. Con 40.000 foglietti in circa per tutta Italia. E chi paga? Scusa, chi paga? Lui paga Auriemma. Paga Auriemma. Tu sei ricco? Cavaliere, sei ricco? Sì, insomma, c'ho un po' di soldi. Quanti soldi c'hai? Tanti. Dì la verità, milioni di euro. Milioni di dollari. No, dollari o euro, scusa? Euro, Ma non è che stai pure tu, non è che stai pure tu nel conto quello là delle isole là, no? No, la cosa lì è diversa, quella cosa bella lì, dai. Ecco, ah, è bella secondo te? Questo è interessante. Cioè, è giusto pure portare i soldi là secondo te? Certo che è giusto, è bello, quello là è bello. Ricominciamo da questo, dopo la pubblicità, il nostro candidato sindaco di Roma, almeno il mio Parezzo, il tuo non lo so che sia a Roma, non credo che tu voterai per il Cavaliere Oriemma, no? Italia Morale, tra poco. Oh, ma questo di Mantova, che si è fumato! La Zanzara. Luciani, io ho già rotto 3 volte i tergicristalli a chi parcheggia nei posti dei disabili e continuo inesorabile, è una soddisfazione fantastica. In collegamento da Roma, il nostro candidato, il mio candidato sindaco di Roma, il cavaliere Mario Auriemma. Ragazzi, la città è perduta. Tanto. Si chiama Roma, no, Roma Nuova. Italia, la nuova Roma. Sì, Italia Morale. Italia Morale, il nuovo consigliere, qua tutti i consiglieri nuovi. Che vuol dire? Fuori i vecchi, ma, fuori i nuovi. Scusi, cavaliere, ma che vuol dire Italia Morale? Italia, la morale. La morale, la morale. La morale. Che cos'è la morale? La morale, non arriva a rubare, non arriva a truffa, non arriva a con gente cattiva. Roma deve essere morale. Oh, ma che vuoi? Ma Roma deve essere morale. Deve essere morale. Ma che vuol dire? Roma, cambiamo tutta Roma. Tutto cambiamo. Il Colosseo non serve, via, buttiamo giù quella Colosseo. Colosseo, che facciamo col Colosseo? È un abuso edilizio, buttalo giù. Come sta il Colosseo? Non è un abuso edilizio il Colosseo. No, che c'è? Magari dice che è un abuso edilizio. Ma bisogna costruire di più a Roma, più case da costruire, più costruttori. No, basta, siamo troppo costruttori. Troppo costruttori. E candidato al Comune di Roma non ci vogliono i costruttori. Quello è Marchini. Operai, impiegati. Ma la fa l'accordo però con Marchini? Lui. Sì, non lo so. Appunto, scusa, sul traffico, cioè, i giovani a Roma consumano un sacco di droga, no? C'è un sacco di consumo di droga. Ma no, non c'è sta a Roma. Ma come non c'è sta a Roma? Come cosa dice? È pieno di cocaina a Roma, gente che strafa. Ma non ce n'è a Roma, è pulita Roma, è trasparente Roma. Ma è trasparente, è pieno di gente che. È pieno di gente. È pieno di gente che pipa, amico mio. Ma no, ma lascia perdere, non è vero sto fatto. Ma che c'entra che pulisce tutto? Mamma è pieno di ragazzi che si pippano la cocaina dalla mattina alla sera. Ma non è vero, no, sono tutte barzellette queste. Tutte barzellette, non c'è droga a Roma, non circola droga. Rinnovate Roma, venite. Vabbè, quello ma questo Roma. Però cosa vabbè, c'entra cavaliere, adesso? Io non ho capito. Tu, per esempio, che cosa faresti ai pedofili? Nulla, zero, sotto zero. Sì, in galera. Beh, questi in galera, d'accordo, siamo d'accordo. Ma non basta, lui, solo però. La galera, però. Solo la galera. Cioè, non, il pisello glielo taglieresti ai signori pedofili? Ma a galera e basta, lo porti in galera e basta, e finisce la storia. E finisce la storia, sì, basta. Beh, questo è problema. Tu sai cos'è? Ma il primo provvedimento, caro sindaco, che lei prenderebbe, io sono già a Milano, ritorno a Milano subito appena se dovesse succedere, ma già non importa. No, il primo immediatamente. Vuole tornare a Milano, che treno, su aereo subito, boom, Milano niente immediatamente, ma subito. Ma tu sai perché torna a Milano? Perché sei l'anziano, faccio torna a Milano. No, quella no, è dell'Inter. Ma che l'anziano, sono dell'Inter, ma non capisco niente. Ma qual ma è il primo provvedimento? Io sono l'anziano, che c'hai contro di me? Scusa, cavaliere, non ho capito. Che sei laziale, sei. E perché? Che c'hanno i laziali? A Rogna. Mamma mia, vedo un presidente, madonna. Che c'ha lo Tito? Fa paura, cioè, lo Tito fa paura nel calcio italiano, fa paura. Cioè, fa schifo, che cos'è? Peggio andare di notte. Cioè, peggio che andare di notte, che faresti? Peggio andare di notte, che bisogna fare? Lo dite, peggio andare di notte, lo Tito. Beh, ma non è bello che tu ti metti contro una parte del... Beh, oddio, lo Tito non è che sia molto amato. E che stavi dicendo, Parenzo? No, voglio sapere il primo provvedimento del cavalier sindaco Mario Auriemma per Roma. Il primo tutti si insedia. Solo i tassisti hanno camminato. Questo l'ha già detto. Tutti a piedi, solo i tassisti. I tassisti diventano i più ricchi di Roma in pratica. Dopo questa no, cosa. Diventano i suoi poveracci adesso. I tassisti. Ho capito, però tu dici tutti a piedi, cioè tu vuoi togliere il servizio pubblico dagli autobus. Niente. Ma certo, devi togliere l'autobus, devi togliere, completamente tolto. Tutto, autobus, togli anche chiudere la metropolitana. Chiudere la metropolitana, giusto? No, ma dove date in aperto? Gli autobus niente, senza autobus. Senza autobus, solo taxi per Roma. Solo i taxi. Vanno a piedi. Vabbè, vanno a piedi. Ma chi va a piedi? Questo è matto. Senti, ma Mussolini ha fatto delle cose buone, ci vorrebbe un Mussolini a Roma, ha no? Ha fatto no? Una cosa bellissima, non lo so, gli ha fatto le cose più belle del mondo. Eccolo qua, c'è uno statista. Pazzesco. Un grande statista. Eccolo qua, lo sapevo. Che statista è stato Mussolini? è stato un grande setista, meglio di Andreotto. Meglio di Andreotto, addirittura. Andreotti, però con la I. Ma scusa, però ci sono delle piccole cose, che ne so, le leggi razziali, ecco, direi, gli ebrei. Non solo. No, questa legge qui, no, la legge sai qui, ormai sono passati di moda questo. Beh, come di moda? Che vuol dire sono passati di moda? È fuori moda, è fuori moda. Guarda, ma che moda? Nel 38 state fatte, ma che dice? È fuori moda, ma c'era la moda, ma c'era la dittatura all'epoca, Oriemma, c'era la dittatura. No. Ma beh, ma 50 anni fa. 50 no, ho capito, c'era la dittatura. Ma se lei dice che aveva delle cose buone, scusi, ma come morale, si morale, bisogna votare Italia morale, non c'è più la dittatura. Bisogna votare Italia morale. Ma qua la dittatura, ecco. Non c'è più la dittatura, manca c'è. Adesso, che vuol dire? Pazzo. Manca adesso, cioè. Italia votato, tutti Italia morale. Ma questo lo sappiamo. Comunque mancava una figura così di spicco nella camera. Roma, conquistiamo Roma. Via i froci, via i froci, mi sembra. L'altra volta hai detto a casa. Via i froci, i rom pure via, no? A casa loro, tutta a casa loro. Ma quale casa loro? Pure i rom e froci via. Gli omosessuali che vivono a Roma, scusa, cosa fai? Gli omosessuali in campagna, in campagna. In campagna, Roma, in campagna. Voglio andare in campagna. I rom, i pure i froci in campagna insieme ai rom. In campagna, esatto, vanno bene lì. Ma come fa? Gli mette una stella? Che gli mette un contrassegno? No, gli metto un ferro filato, chiuso. Gli mette filo spinato, vuole dire. Ma ferro filato, filo spinato, vuole dire. Ma guarda che siamo ma scusa, livello... ma conosci tu... Non riesco facciamo neanche un esempio. A quel tu, paese. Tu perché... conosci qual è la metropolitana di Roma, per esempio? Da dove va, dove va? La metropolitana, quella roma. Ma io non vado mai in metropolitana, vado solo in tassi, non vado mai in metropolitana. Mai andato in metropolitana, mai. Manco mai, sai. Mai, l'autobus, mai. L'hai mai preso l'autobus? Mai, mai, che cazzo ti frega te? Ma solo il tassi. Auriemma, ma scusa, la nuvola di... Sai che cos'è la nuvola? Come un'opera, lo sai che cos'è? No, dite no. Fuxas, no, chi è Fuxas? Fuxas, lo chi conosci? È Fuxas? Come no? Io sono l'architetto, come no? Appunto, che l'ha fatta lui? Ha fatto una cosa che si chiama la nuvola. Basta. Sai dov'è fatto almeno? È lontano dal centro di Roma, ha fatto a Leo, l'ha fatto. Beh, sempre Roma è però. Sì, perché Leo è in periferia, Leo, è in periferia. Ma che periferia? Uno dei quartieri più ambiti, sì, comunque. È periferia. È Roma, centro, piazza Colonna, Fontana di Trevi, piazza solo quello. Dove abiti tu? Cavaliere, dove abiti tu? Io abito a Trastevere. A Trastevere. Ma comunque che casa hai? Quanti metri quadrati? 150 metri quadrati. 150? Vabbè, manco tanti. Io pensavo che ci avessi 300-400 metri quadrati. Ma sono solo, perciò senza compagnia. E ti credo che sei solo. Che chi lo sei vuole? Solo, che devi fare? Viagra, lo usi il Viagra, amico mio? Beh, zero, sotto zero. Non c'è bisogno del Viagra. Cialis, no, Viagra, zero. Queste cose qui. Zero. Sotto zero, sotto zero. Ogni tanto qualche donnina. No, sotto zero. Basta. Campagna elettorale. Italia morale, Italia morale. Sembra un po'. Fate presto. No, Italia morale, no, Italia morale. Ciao, amico mio. Ciao. Ciao. Italia morale, ciao. Un ascoltatore da Palermo, residente a Long Island, New York. Viva la zanzara, ogni giorno ci ascolta da Long Island. Un altro mi dice: bravo, per la prima volta qualcuno ha detto che New York fa schifo, che è una città brutta. Esteticamente. Siete malati. Tu di hai testa, la, quella che una malattia tipica degli italiani, che è la New York filia, la vorrei chiamare. La New York credo, ma è una malattia è cronica, una ma malattia ci sarà cronica. Un motivo, no? Sei la tutto New il mondo York, riconosciuto vado come a New York, di vado a New York, beh, quattro giorni straordinari. Ma vai, beh, a coso? Ma vai a vai a Matera, no, a New una York. Cosa non mette, vai a Matera. Una cosa vai non a Matera. L'altra. Vai I a Matera. I sassi di Matera hanno un fascino diverso dalla dai. Bellezza della, di Central Park, di Tribeca. Di Battery Park, Battery Park di Brooklyn, dello straordinario Harlem, dai. Il quartiere Antonio in cui da Brescia, dai. Harlem, New York, insomma, filia, ragazzi, ma dai, ma non mi metto a discutere con te di queste New cose. York, no? Filia, ma Antonio Brescia, dai, Antonio. Ciao Cruciani. Dimmi. Volevo dirti che secondo me Vassallo non ha al 100% ragione. Sul fatto del dirti che tu sei un pedofilo, diciamo, tu non sei un pedofilo, questo diciamo è matematico. Antò, ma adesso okay. Tu sei lo stesso di Bergamo che Brescia, cambia, sei lo stesso di Bergamo che cambia numero di telefono, Antò, hai rotto i coglioni, no, dai. No, non sono io. Ascoltami, io ti voglio dire cosa, che ovviamente tu non sei un pedofilo, però... Ma questo è lo stesso, dai, è lo stesso. Però, cosa però, succede? Però. Tu diventi come un pedofilo se sei... a favore di una violenza come lo stupro di un visone per fare una pelliccia, perché viene impalato con un palo di 30 centimetri nel culo. È il cretino. Questo, un visone viene impalato con un palo elettrico, ok, nell'ano, okay, per non rovinare la pellicca, ok? Un visone cos'è? Ma è questo, un animale innocente. Questo è quello, okay, della mosca. Un bambino cos'è? Un bambino è un essere innocente che prova dolore. Parlare, e se tu sei a favore di una cosa del genere, non puoi essere una persona bellissima, io credo. Io di sicuro so che tu non sei ovviamente un pedofilo. Io condanno le parolacce, condanno gli insulti, perché sono una forma di violenza, ok? Però condanno anche chi è a favore di una cosa del genere. Hai finito con la filippica sugli animali, l'ennesima filippica che mette sullo stesso livello lo stupro di una persona umana con l'uccisione di un animale. Che differenza c'è se un essere vivente è indifeso? Io non ne posso più di questo argomento. Non ne posso più di considerare. Tutti sono cattolici e dicono: ah, l'agnello di Dio. E l'agnello di Dio è l'animale più innocente. Dopo cosa fate? Ve lo sbranate. Questa è la filosofia che mandate. Perché Gandhi era vegano? Rispondimi, Parenzo, cazzo. Rispondimi. Vabbè, ma ho capito. Il fatto che Gandhi fosse vegano, esattamente l'opposto di quel che siete c'è voi. Una domanda che voglio quello fare. Quello contro gli inglesi si sedeva nella marcia del si sedeva per terra, non andava all'assalto di luoghi come la Radio 24 o altri posti. La Radio 24, sì. Antonio, ti posso fare una semplice domanda, che è una cosa che mi ha suggerito l'anno scorso, qualche giorno fa, Anna Federici, che è questo, che è la moglie di D'Agostino. Devi domandare a un nazi vegano, quelli che io soprannomino nazi vegani, mi dicono addirittura che non posso utilizzare la parola nazi perché è un'offesa, è chiaramente un'espressione per significare un vegano fondamentalista. Un estremismo, anche fai, mi correggi, okay, Antonio, capito? Mi aiuti nella correzione. Allora, okay, ti chiedo, Antonio, questa cosa qua. Tu sei a favore dell'aborto? Sei a favore dell'aborto? Certo, sì, che sono a favore, dipende. Però tu che sei contro l'uccisione degli animali, contro l'uccisione, sì, però sei a favore dell'aborto, basta, abbiamo chiuso qui, basta ragazzi, pubblicità, via. La Zanzara, sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiana. La Zanzara. Allora, prima dell'ennesima rottura di coglioni del traffico, perché questa trasmissione, come sapete, è praticamente un intermezzo tra le interruzioni, cioè uno spazio tra le interruzioni, cioè adesso io devo dare la linea al traffico, capito come funziona qua? Cioè, dovrebbe partire alle 20:15, non serve una mazza, cioè abbiamo pubblicità, un minuto traffico, una cosa che solo pensarla è da manicomio, da chiamare le ambulanze da manicomio. Vabbè, lasciamo perdere. Però vorrei un po' lavorarmi Gennaro da Caserta, cioè avere a che fare con Gennaro da Caserta. Caro Gennaro, dimmi. Ruciani, ma ti volevo dire una cosa. Tu che stai facendo, porti avanti sta campagna tra vegani e carnivori da tanto tempo, perché poi sei solo una marionetta. Una marionetta in mano a chi? In mano ad un potere, perché questa è tutta una campagna pubblicitaria che stai facendo dietro alle aziende che stanno nascoste. È perché non si spiega, ma perché non l'hai affrontata quello? Perché sei un cagasotto. Ma chi? Affrontare chi? A quello lì che ti voleva aggredire, perché non sei uscito? Perché tu pensi che la cosa migliore da fare sia prendersi a pugni? Ma quando serve, sì, perché tu quando serve ci vogliono i pugni, no, bravo. Tu sei come quegli pseudo scrittori intellettuali giornalisti che dicono che sono una signorina che scappava. Caga sotto. Pure se prendevi le botte, almeno avresti dimostrato di essere uomo. Marionetta di un sistema di potere. Marionetta di un sistema di potere. Perché dietro stanno viaggiando tutte le grosse aziende carnivore. Ho avuto sempre grandi contatti con le multinazionali del salame, del prosciutto e del... Sì, sì. metti solo una Mario, perché non ne posso. Mi hanno sempre riempito di quattrine, soprattutto le aziende. Confindustria è un'azienda che mi ha sempre appoggiato proprio in tutte le sue componenti. D'accordo, ma è il tuo lavoro, però sono 3 mesi. No, ma forse lo dico per scherzo, non hai capito ancora. Perché il fatto, io ti voglio dire una cosa, a parte che ognuno è libero di essere vegetariano, vegano, carnivoro, uno che fa il coglione di 2 ore come te in radio, che fisicamente non fa nessun tipo di lavoro, gli basta un'insalatina e 3 olive. Senti, amico mio, io qui mi rompo il culo a fare questa trasmissione, capito? 2 volte al giorno il tendone sopra le merci. Beh, ma che c'entra? Io rispetto il tuo lavoro, che vuol dire? Fisicamente, no. E allora? E allora? Ho bisogno è un lavoro diverso, io rispetto tantissimo il lavoro dei camionisti, come sai. Qui è la radio dei camionisti, in pratica. Allora? Guarda, io ti ascolto da tanti anni, lì mi hai deluso, lì dovevi uscire a affrontare inversioni. Gennaro! Non ti devi crogiolare dietro. Forse non hai capito, io non faccio il camionista, con tutto il rispetto dei camionisti, perché poi ci sono... Non faccio il camionista. Hai dimostrato di essere un cacasotto. Ma cosa? Cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Ma che cosa misuri? Tu sei come quelli che misurano. E che faccio? La campagna deve finire a botte, secondo te? Che ci crede tu che devo fare a botte con un... Era uno come lo eri tu. A parte che non era uno, ma erano 4 o 5, non sapevano che cosa avevo in mano, Ma siccome tu sei molto più intelligente di quelli che non l'hanno capito e mi danno della signorina, capito? Tu, Gennaro, sei molto più intelligente di quelli che scrivono sui giornali che mi hanno dato la signorina e che nemmeno nomino perché mi fanno orrore. E non nominerò mai più. Chiaro, Gennaro? Uno che crede in no, ma stai calmo. Gennaro, io secondo me... La gente è morta per fare la storia. Ma lascia perdere, mo morire o non morire. Il giorno dopo, con Parenzo, sono uscito a viso aperto. 2 giorni dopo, con Parenzo, siamo usciti a viso aperto e ce ne siamo sbattuti, capito? Con la security che magari... Ma che cazzo c'entra? Ma c'era pure... Ma cosa? E allora? E allora che cosa? Ma che cosa? Per proteggere loro, però. Ma che cos'è? Un duello rusticano? Ma quello duello è un credere in qualcosa, un'ideologia. Un credere in qualcosa. Ma che stiamo a cosa? Gennaro, sei molto più intelligente di quei coglioni che scrivono che sono una signorina, capito? Sei molto più intelligente. Fai una riflessione. Sei molto più intelligente dei giornalisti che scrivono minchiate. Ciao, ciao. Bruciani, non mollare. I nazi vegani non vinceranno mai. Traffico. La zanzara. Allora ragazzi, siamo arrivati al paradosso. Mi accusano e mi dicono anche che è passato uno stralcio della nostra intervista a Fede su Blob, adesso su Rai 3. Mi accusano alcuni siti, Parenzo, di avere fatto una battuta omofoba. Ovviamente non capiscono un cazzo, sono totalmente pazzi. Quale? Attribuire a me qualcosa che ha a che fare con l'odio nei confronti omofobia, cioè fobia nei confronti della omosessualità, dunque una specie di odio nei confronti degli omosessuali, è una cretinaggine totale. Allora, nella dialettica radiofonica, spiega a questi signori che continuano a dire che io ho fatto una battuta omofoba parlando con Fede di Cecchi Paone, nella dialettica radiofonica esiste anche un modo per... Ma è inutile spiegare, perché è veramente ridicolo. Risentiamo che cosa, come ho presentato la vicenda a Fede, come ha risposto Fede, in maniera che ognuno può giudicare, con una battuta, diciamo, di cattivo gusto, sgradevole nei confronti di Cecchi Paone, l'abbiamo già detto, no? Cecchi Paone che diventa conduttore del TG4, il primo vero conduttore, diciamo, conosciuto al grande pubblico dopo Emilio Fede, e abbiamo fatto qualche domanda a Fede e Fede ha risposto in questo modo. Chi hanno scelto? Alessandro Cecchi Paone. Sì, detto anche Checca Pavone, cioè hanno sostituito te con un, sostanzialmente te, perché non c'era un altro personaggio prima, con un omosessuale, diciamola tutta. Volta pagina, siamo passati da davanti al di dietro, da davanti alla storia. Allora, quando io dico detto anche Checca Pavone, l'ho detto a Cecchi Paone in faccia più volte, ma non lo dico con scherno, non lo dico in maniera... No, per disprezzarlo in maniera dispregiativa. Lo dico perché sul web, no, Checca Pavone, ma a lui se n'è sempre fottuto di queste cose qui. Non è una battuta omofoba e non mi rompete i coglioni con queste cose qui. Da quando l'abbiamo intervistato qui alla Zanzara è diventato ospite fisso di Barbara D'Urso, che fa grandi ascolti con il professor Alberico Lemme. Ciao Alberico, come stai? Ciao, buonasera a tutti. Abbiamo fatto il 20% di share. Amico mio, abbiamo fatto. Però abbiamo fatto, ha ragione dirlo, perché, ripeto, viene... Il suo sessismo ha contribuito, no, diciamo... No, sessismo, perché no, adesso sessismo? Che se la Presidente Boldrini sentisse per purissimo caso, diciamo, no? Le riflessioni di Lemme sulla donna, che farebbe? Lo denuncerebbe? No, lo denuncerebbe? Si farebbe presidente della Repubblica. Beh, adesso questo mi pare piuttosto strano. Come la consideri a proposito la signora Boldrini, tu, Lemme? Dimmi la verità, come tutte le donne, immagino, no? Come tutte le donne, infatti, non la considero neanche. Quindi non la consideri neppure. Ma perché lei non, pur avendo delle figlie femmine, non considera le donne? Ma no, perché devi fare? Non ma le usa almeno, cioè, voglio dire, le frequenta? No, le uso e me la faccio prestare. Se la fa prestare, c'è, cioè, la ma figa. Ma io non so, sua moglie, ma come fa sua moglie a stare con una? Ma infatti non è sposata. Ma infatti non ci sta, mia moglie non mi sopporta. E certo, non lo sopporta. Cioè, nessuno sta col sottoscritto. Come si fa a pensare con un pazzo? Un pazzo anche genio, però, diciamola tutta, perché questo sennò da dimostrare. No, vabbè, se uno, se tu dici che sei solo un pazzo, saresti autolesionista. Non credo che ti consideri solo un pazzo, no? Io no, ma tutti mi considerano un matto. Tutti ti considerano un matto, motivo, è vero. Però, eh? Tutti ti considerano un matto. Sei proprio tutti. Allora, tutti io voglio fare un appello a tutte le ciccione che sono in ascolto. Diciamo le persone diversamente magre. Le ciccione e le obese che sono in ascolto con gravi problemi. Le obese è offensivo, è molto più simpatico cicciona. Le ciccione, vabbè, ma uguale, fammi dire. Non è scientifico come termine, però. No, ma sì, è scientifico, come le ciccione, vabbè, lascia perdere, si capisce. Tutte le ciccione della Zanzara, che sono tante, che sono all'ascolto, chiamatevi, così lui vi insulta. E solo attraverso l'insulto di Lemme già perdono un chilo e mezzo e potete rendervi conto del vostro stato del vostro stato, cioè Lemme, se, quando vi insulta, brutta cicciona, guarda come stai, non riesci nemmeno a com'è che si fa, com'è che si dice, com'è che si affronta una cicciona, come fai a Canale 5, la, come hai fatto anche con noi prima, dimmelo. Quando la persona viene da me dice buonasera cicciona, ecco, questa è la cosa, questa è la prima cosa, d'accordo, ma tu che cosa dici? Guarda come cazzo sei ridotta, no, una no, cicciona. Non uso una terminologia, no, portata. Cazzo, no, perché sennò no, quella esce naturalmente, no. Cosa dici? Guarda come sei ridotto, dice, non ti vergogni, qualcosa dirai, no? E dico, come fa a cucare con questo doppio mento? No, guarda che c'è un culo come una damigiana, no? Al collo taurino, ma non si vergogni, ma come fa ad andare in giro? Capito? Sì. E chi si offende si alza e se ne va, e chi rimane e va verso la salvezza e la libertà della ciccia. Capito? La libertà dalla ciccia. Allora, ciccione, tra parentesi, donne in sovrappeso, siete tante, lo so, che sentite la Zanzara. Volete farvi aiutare dal professor Lemme? Volete una mano anche radiofonica con Lemme? Qui diamo consulti, diciamo al 50%, possiamo fare al 50% Lemme rispetto a... Facciamo al 50%, dai, più invece di 200... Consulto radiofonico con Lemme, questa è una grande idea. Consulto radiofonico con Lemme. Ma come fa se non le vede, scusa? Beh, no, che c'entra? Un consulto è fatto al 50%. Uno gli dice com'è lo suo stato, quanti chili, quanto i problemi, pesa, diciamo, quanto pesa, cosa deve... poi va... Però intanto il 50%, il 20% lo intaschiamo noi, lui il 30%. Consulto radiofonico, un quarto d'ora a settimana di... Questa è una buona idea, Parenzo, perché no? C'è una buona idea di format radiofonico, no? Giusto, Lemme, ci stai, sì? Ci sto, così farò diventare famosi anche a voi, oltre che a voi. Beh, adesso, amico mio, adesso, con tutta l'ammirazione per il tuo modo di parlare, per il tuo essere così esplicito, ma siamo venuti prima noi del professor Lemme, adesso, detto con tutto il rispetto. Ma io non so, le figlie come fanno a non... veramente mi dispiace. Allora, perché... vogliamo riepilogare però la considerazione che ha della donna il professor Lemme prima di andare alla ciccia del discorso di questa sera. Lemme, ciccia. Tu, la ciccia è un termine appropriato. Come consideri la donna? Un essere sostanzialmente inferiore, diciamola tutta, dai. Io devo chiedere scusa alle donne perché le ho considerate l'essere inferiore. Mi sono sbagliato, è l'uomo che è superiore. Ah, così, è vero, sì, è vero. C'era da riflettere su questa cosa qua. Cioè, l'uomo, insomma, ci crede davvero. Come l'uomo è superiore all'animale, tu dici l'uomo è superiore alla donna. Il maschio è superiore alla donna. Il maschio è superiore alla donna e diciamo il ruolo della donna. C'è uno studio del CNR che certifica che il maschio ha un pensiero logico e usa un... E questo l'abbiamo già detto. Questo l'abbiamo già detto. E la donna invece ha un cervello emotivo. Emotivo. Vabbè, questo però possiamo scherzare, ma la realtà è questa. La donna, cervello femminile, pesa 1,2 kg, cervello maschile 1,350 kg. Ma che vuol dire che fanno la differenza quei 150 grammi? Non ho capito. Pazzo. E perché, scusa? Sono molte sinapsi in più. Cioè tu dici, è veramente più intelligente l'uomo, cioè c'ha più qualità l'uomo, cioè tutto quello che abbiamo sentito negli ultimi anni sul fatto che la donna è discriminata nella società. E dite una qualità che ha la donna rispetto all'uomo in più, me ne trovo uno. Vabbè, ma adesso molti dicono, no, me ne dite uno. Molti dicono, io non ci ho mai creduto, molti dicono, che ne so, ha delle qualità capacità di concentrazione. Anche, ma anche soltanto della... No, una qualità. Tolleranza della sofferenza, sopportazione della sofferenza, ma l'uomo non sarebbe mai in grado di partorire, ad esempio. Ma cazzo c'entra questo? Fisiologicamente riesce a sopportare dolore in più, ma è una superiorità, diciamo, fisiologica, non intellettiva. Cioè tu dici che proprio intellettualmente la donna è inferiore perché ha meno sinapsi e il cervello più piccolo, questo no, è il punto. Perché ha un cervello emotivo, quindi l'emotività blocca l'evoluzione, la donna è sempre arrabbiata. Tu glielo dici alle tue figlie, glielo dici questa roba qua? Ma certo, detto? Lo sanno perfettamente, lo sanno, cioè sono consapevoli, perché loro? Bisogna essere consapevoli di questo. Ma la donna nella società deve essere anche un po' sottomessa da questo, no, punto di... sottomessa no, perché quando non si riesce a sottomettere la donna, noi dobbiamo sempre portare al centro dell'attenzione, altrimenti se non portiamo la donna al centro dell'attenzione, questa è qua. Però tu dici, non ve la dà, sì, non ce la dà, sì, questo pure è vero. Allora, dopo la pubblicità scopriremo alcune cose molto interessanti, Parenzo, sul sesso, l'emme e il sesso, non tanto l'emme e il sesso come sue capacità, anche quello, ma l'alimentazione, il sesso, cose fondamentali, il mitologico professor Lemme, tra poco. Cruciani, sei un figlio del demonio. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presento La Zanzara. Cruciani, sto in Argentina con mia figlia, ogni giorno ci mangiamo. Buonanotte, è il bife de chorizo, la mocheja, la morsiccia, è il cinciulin, è l'omo, è il cordero, mamma mia, quanto è buona la carne! Allora, Higuaín, 4 giornate, nel referto dell'arbitro, tra le altre cose, c'è scritto che ha detto sei vergognoso al direttore di gara. Adesso, per carità, in campo però si sente molto di peggio, devo dire, questo bisogna dirlo, in campo si sente molto molto di peggio. Cioè, se ha detto solo quella parola, sei vergognoso all'arbitro, sì, vabbè, d'accordo, insomma. Cioè, è stato espulso per doppia ammonizione per quel fallo che è contestato al giocatore dell'Udinese. Però dopo avrebbe rivolto all'arbitro questa parola: sei vergognoso. Adesso in campo si sentono bestemmie, insulti molto più pesanti di sei vergognoso. Per carità, poi se tu lo senti a due metri, l'arbitro fa è giusto che vieni sanzionato, però insomma. Vabbè, ma eravamo con cose molto più importanti, con il professor Alberico Lemme, il quale, caro Alberico, ci sono veramente una marea di telefonate per te, per un consulto. Però ti voglio subito chiedere una cosa: ma è vero che la dieta mediterranea può alimentare il cancro? No, non alimenta il cancro, la dieta mediterranea nutre le cellule tumorali. Cioè, la dieta mediterranea nutre le cellule tumorali. Esatto. Vabbè, dai, professore, ma questo qua ci fai finire in galera con queste cose, professore. Ve lo posso spiegare? Spiega, dai, forza. Bisogna sapere che la cellula tumorale metabolizza e si nutre di glucosio, quindi di zucchero. Allora? E ne ha bisogno 3 volte rispetto a una cellula normale. Mm. Quindi, la cellula tumorale si nutre di glucosio e di zucchero. E dunque? Chi riproduce la riproduzione per la cellula tumorale va a riprodurre l'insulina. Mm. L'insulina dà l'input alla cellula tumorale per la riproduzione. Dunque? Quindi, le due molecole incriminate, il glucosio e l'insulina. Nel momento in cui io mangio la frutta, è ricca di glucosio, Vabbè, e va a stimolare l'insulina. Quindi nel mio sangue io metto in circolo glucosio e insulina. Quindi questo non fa altro che andare ad alimentare la riproduzione. Cioè, tu stai dicendo che mangiando i tuoi grandi nemici, che sono i pomodori, per esempio, esatto, no? Esatto. Quello che aumenta, che va a nutrire il cancro, sono la frutta e i pomodori. Cioè, e dunque la dieta mediterranea. Tu dici, bisogna evitare di mangiare queste cose perché... No, bisogna evitare, bisogna non avere picchi glicemici. Vabbè, ma questo, ma ho capito, ma amico mio, ma non si può dire che la dieta mediterranea, diciamo, nutre in qualche modo il cancro. Perché... Sì, perché la dieta mediterranea è basata soprattutto su frutta, su Però pasta. Scusami un'altra cosa, lì dalla D'Urso ti ho sentito dire una cosa sulla chemioterapia, che è una cosa assurda, che non serve a niente la chemioterapia, poi ti sei corretto. No, da un video nascosto. Non mi dire che no, sei uno di quelli che dice che non serve a niente la chemioterapia. No, io non dico questo. Però tu la sceglieresti? Questo. Tu la sceglieresti come solo per carità? Io mi nutro e mi curo con il cibo, quindi non ho bisogno di... Io non ho bisogno Non ho bisogno, eccetera. Metti che succede, mi tocca dappertutto, eccetera, eccetera. Tu personalmente la faresti la chemioterapia? Al momento deciderò se usarlo o meno. Però, per adesso io sono sano e non ho bisogno... Ma la consiglieresti a qualcuno o no? Ma io non consiglio le terapie farmacologiche. Non le consiglio e non le sconsiglio. Senti, non entro in merito a quello che loro, gli altri fanno. Senti, ma la tua dieta... Io affermo che la dieta mediterranea è stata una grande operazione di business, ma riuscita. Mm. È stata creata per propagandare i prodotti italiani come frutta. E non serve a niente, anzi è dannosa, tu dici. È dannoso perché da quando è venuta fuori la dieta mediterranea non c'è altro che l'aumento di obesità, di diabete, di ipertensione e di tumori. Senti una cosa, però adesso lasciamo da parte la dieta mediterranea, ma spiegami una cosa, ma è vero che tu hai orgasmi di 20 minuti, mi dicono? No, anche di più. Ma com'è possibile questa cosa? Orgasmi di 20 minuti? Spiegalo alla gente che non riesce manco ad avere orgasmi. Però questo, ho detto che non dovevate dire, ve l'ho detto. Voi me lo dite, già non ne posso più di donne. Se dico questo, arrivederci, grazie. Appunto, ma questo è importante. Invece, diciamo. Senso, che ha la fila. Ha la fila di donne, certo. Ma alla fila. Sì, ma come no? Ma non lo vedi, professor Lemme. Cioè, vedi, da quando vai in televisione a Canale 5, quante donne ti seguono? Quante donne ti vogliono scopare? Non lo so, però col pensiero tante. Col pensiero tantissimo. Vabbè, ma tu che nel sesso come sei? C'è una classificazione? Come sei? No, allora questo me la, il vostro intervistatore me l'ha tirato fuori, visto che l'avete tirato fuori anche voi, adesso ve lo racconto. Raccontacelo, sì, raccontacelo, dai. Io sono un taoista. Sei taoista, che vuol dire? Mancava il taoista. La filosofia tao che è nata nel 2000 avanti. Sì, va bene. E dunque, che c'entra? Insegnavano i monaci taoisti, insegnavano a guerrieri a fare... avendo rapporti sessuali con la propria donna o con le proprie donne, la devono far godere tantissimo, avere tanti orgasmi, perché questa energia sessuale che la donna libera nell'orgasmo, l'uomo riesce ad assorbire e diventa sempre più forte. Questo è interessante, cioè tu dici, io sono uno di quelli che assorbe l'energia sessuale che viene dal godimento delle donne, cioè le donne hanno degli orgasmi, più orgasmi hanno, più io assorbo l'energia di questi orgasmi. Il segreto sta però nella non eiaculazione. Perché se eiaculo questa energia sessuale non serve a niente, si disperde nell'universo. Invece tu non eiaculi, cioè tu praticamente non eiaculi mai. No, non eiacula mai. Questa è una notizia fondamentale che troverà spazio nel Sole 24 Ore. Il professor Alberico Lemme non eiacula mai. A livello occidentale l'orgasmo maschile è uguale a eiaculazione, mentre nella filosofia Tao non è uguale. E tu sei un seguace della filosofia Tao. Filosofia Tao non serve quella di Taormina, eh? È quella taoista. Poter avere tanti orgasmi anche il maschio senza eiaculare. Benissimo, tu dunque sei un amatore eccezionale. Non lo so, dipende. No, ma come ti definisci? Un grande amatore? Un taoista. Poi se sono grande o piccolo, dipende. Cioè, puoi dare lezioni a chiunque su questa cosa qua o no? Oltre a livello dietologico, anche a livello sessuale, posso ottenere delle lezioni e insegnare a molti a far l'amore per far godere tante volte la donna e godere tante volte lui. Si hanno delle prestazioni anche di 2, 3, 4, 5 ore. Minchia, ragazzi. Allora, grandi personaggi intervistati, ma anche personaggi ciccioni o parenti di ciccioni che chiamano. Partiamo da Emanuela, dalla provincia di Milano. Emanuela, dimmi. Emanuela? Sì, ci sono qua. Cara Emanuela, dimmi, che cosa preferisci? Cosa preferisci di Lemme? Le prestazioni sessuali oppure quelle dietologiche? No, guarda, le prestazioni sessuali proprio non ce ne frega niente. Sì, sì, va bene. No. E voglio capire se posso passare il test e quindi vai. Essere un po' quanto insultata telefonicamente, ho più di 20 kg da perdere, sono abbastanza bassa o diversamente alta e quindi... Ma scusa, quanto pesi? Quanto pesi vuoi sapere troppo? Ma come vuoi sapere troppo? Che stiamo a fare qua? Diciamo che sono un po' buzzicona. Vabbè, quanto pesi? 80, 85, 90, no, 100, 120? Meno di 80 e più di 50. Vabbè, ma ho capito, ma che testa è? Dai, su, ma vuoi perdere 20 kg? Non sei cicciona, dai, Emanuela. No, te lo dico io, sono cicciona, non ti preoccupare. Sei cicciona. No, non lo vedi, non lo devo dire io, voglio capire cosa mi deve dire lui. Lemme, che gli vuoi quindi dire a questo? Quindi devi perdere 20 kg. Sì, 20, anche 25, sì. In tre mesi li buttiamo giù, perché la media è dai 7 a 10 kg al mese. In tre mesi li buttiamo giù, ma dille qualcosa, insultala un po' questa qua. Ma devo capire se io vengo da lei, se mi insulta, se poi me ne vado o no, se lei non mi insulta. Ma che è tutto inutile, no? Dille qualcosa, cicciona, scopi male, cioè sei orrenda, gli uomini ti guardano male. Ma se uno è ciccione non riesce a scopare bene, scusa Emanuela, o no? Ma io, la ragazza... Questa è una bella domanda. La ragazza ha già superato il test. Perché? Già è consapevole che è ciccione. È consapevole che cicciona. Vabbè, andiamo avanti, Emanuela, poi ti do il numero. Ho iniziato dicendo che sono cicciona, vedo. Sì, sì, sì. Fatto Angelo Venezia, vai. Ciao, sono qua. Dimmi, Angelo, dimmi. 160. Chi è 160? Tu o tua moglie? La belva mia. Chi è la tua belva? Maria, tua moglie? Sì, si è nascosta in camera. come 160 kg. 160 kg. Ma ha fatto 4 volte la cura, poi comincia a mangiare sempre di più, spacca tutto in casa, dove come si butta giù, spacca. Cosa che gli possiamo fare? Ma non lo so, Angelo, intanto dai, una botta in testa, che vuoi fare? Lemme, che diciamo, chiamiamola al telefono, facciamola venire. Bisogna farla mangiare sta signora. Io adesso sei chiusa in camera, provo a chiamare un'altra volta. Quando ci sei tu? No, ma chiama un attimo, che così la facciamo parlare con Lemme. Ma non esce, sei chiusa dentro. Vai a bussare un attimo, porta lì, che sei col portatile. Che c'hai? E le ho provate tutte, sei chiusa dentro. Ma c'hai il telefonino o no? Che c'hai? Io c'ho, ma lei non mi risponde. Ma vai lì, accanto, la bussa, fammi sentire la voce. Non posso spaccare la porta. Ho capito, ma vai a bussare lì, fammi sentire. Come si chiama? Maria. Maria, com'è che l'hai detto prima? La bestia, andata via, la bestia. Vabbè. 160. Minchia, ragazzi, 160. Oh. Io ho provate tutte, è andato dai dottori, mangia, fa un mese di cura, poi ricomincia a mangiare peggio di prima. Ma che mangia? Fammi un esempio. Ma di tutto, di nascosto, spazza i frigoriferi. Ecco, va. La signora è bulimica. Sì, vabbè, questo però non è che... Cos'è che gli possiamo fare? Le posso dire che la bulimia non è un problema psicologico, ma è uno squilibrio ormonale, quindi è uno squilibrio ormonale che con il cibo si può riequilibrare mangiando, sì, mangiando riesce a riequilibrare il suo, non ha più gli attacchi bulimici e di conseguenza mangia e dimagrisce. Ma scusa, 160 si possono recuperare adesso, oggettivamente? Sì, 160, quindi 60. Tu da quando sei partito, scusa Lemme, tra una scopata e l'altra che te fai, tra quanto sei partito? In che senso quando sono partito? No, come massimo di cura di una persona. Cioè, 210 kg. 210, si è presentato qualcuno con 210? Sì, 210. Oh. E ora sei a? No, ma non lui, una persona. Ho capito la persona lì. Adesso sto facendo 10 kg con 11 mesi. 11 mesi, 110 kg. Va bene, Angelo, vai a chiamare la bestia là. Adesso speriamo di riuscire. Vai a chiamare la bestia. Umberto, provincia di Campobasso. Vai, Umberto. Benissimo, Umberto di Lisio. Dimmi. Montenero di Bisaccia, provincia di Campobasso. Posto volevo salutare di Pietro, sì. Vai, dimmi. Vabbè, volevo salutare il dottore. Comunque io sono un cadetto da tanti anni. Un cadetto nel senso che sei alla scuola di Lemme. Quanti chili hai perso? Ma io ho perso 42 chili. Ma questo qua, ma chi è? Un mostro sto Lemme? Io veramente... Ma sì, ma sicuramente. È un mostro secondo te? È un genio? Io non l'abbiamo chiamato, sì, noi ecco un bel... qua, benissimo, è un genio. È un genio perché sa quello che dice. Bisognerà scoprire qualcosa che non va in questo Lemme, no? Prima o poi striscia la notizia, le Iene ti Lemme, prima o poi striscia la notizia, le Iene ti inculeranno, no? No, sono già venuto due volte, non sono riuscito anche a pezzarmi. Niente, niente. Vabbè, Umberto, ciao, ragazzi, ciao Lemme, a presto, ciao. Buonanotte. Maria, provincia di Pesaro, vai. Sì, sono qui. Dimmi, io veramente volevo dirti che sono d'accordo per una volta tanto, New York è bruttissima. Va bene, ha chiamato così? Per questo. No, ma ha ragione Maria. New York è bruttissima. Certo. Sì, guarda che io la conosco benissimo, l'ho vista la prima volta nel 1960 quando non c'era né Trump Tower, nelle Twin ma Tower, che dite, ma, e poi l'ho ma cosa per, state non so, dicendo? Di ma in tutti i modi. Ma se quella non meravigliosi musei, sembra che c'entra i musei, Guggenheim, grandi grattacieli, mamma ma mia, ragazzi, il fascino di Brooklyn, la bellezza di Battery Park, Tribeca, Chinatown, ma perché non capite niente? Ma voi che non capite, perché nel mondo e allora ci sono rimanga città bellissime e New York rimanga non Bergen, è una di queste, rimanga lì a Bergen, saluto, a Bergen. Buonasera. Rimanga lì, no, veramente a Brescia, di Pesaro, veramente di Pesaro. A Pesaro. Angelo, la bestia dov'è? La bestia di 160 kg, dov'è? Non gente c'è più. Modesta, andiamo a modesta. Bergamo, Isaac. Gente modesta. Vai. Modesta. Isaac, Cruciani. Cascina, dimmi. Gobba, Gorgonzola, dimmi. Rimanete lì. Rimanete lì. Oh, zitto un attimo, va. Isaac, dimmi, dai. Isaac, oh, da Berga. Mo adesso che cacchio di argomento devo prendere? Prima avete ma quello che ti pare, Isaac, dai, forza, dai, dimmi. Ascolta, sono di Bergamo, sono musulmano, italo macedone, mangio l'agnello, ma no, quanto è buono. E allora? E che vuoi da noi? È un cazzo, chiamate così alla cazzo, no? Vabbè, ciao Isaac, mi pare integrato l'islamico. Adesso mi pare perfettamente integrato in Italia, bravo, questa è una bella battuta. Sì. No, anche in Italia direi. Sì, no, anche in Italia in generale ovviamente, ma perfettamente integrato. Isaac, che stracazzo vuoi da noi alle 20:48? No, Cruciani, Dimmi. Primis, volevo mandare a fanculo il bresciano là. Per confermare. Perché ti ha detto che il tuo lavoro non vale un cazzo, no? Vabbè, Isaac, però se devi fare così ti saluto, caro Isaac. No, cioè, no, sei il primo caso di immigrato musulmano, italiano forse. Integratissimo. Il quale, integratissimo, il quale dice: io ho chiamato, ma che cazzo me ne frega, non so che devo dire. Dimmi, dai. No, aspetta, Gucciani, volevo mandarlo a cagare perché. Ma chi vuoi mandare a cagare? Non lo capisco, chi? A quello che ti ha detto che il tuo lavoro non vale niente. Ah, vabbè, ma ho capito, ma non c'ho bisogno che mi difendi, non c'è problema, dai. Ma io come faccio senza di mortacci tu? Come faccio senza di te? Ma non devi stare senza di me, Isaac, non starai mai senza di me, non ti preoccupare. Finché avrò la forza di condurre una trasmissione alla radio, che sia qui o sia da un'altra parte, ci sarò sempre, non ti preoccupare, caro amico. Lo spirito di libertà di questa trasmissione sopravviverà, al di là della radio, al di là di Confindustria, al di là di chi comanda o di chi non comanda, sopravviverà. Attenzione, in qualche modo. Attenzione. No, ho detto che in generale sopravviverà. Non... Clamoroso al Cibali. No, chiudere, via. C'è. Chiudere qua, ragazzi, tutto. Ci sentiamo domani, dai, 18:30. Ciao. Vi voglio bene, adottate un Cruciani, mi raccomando. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.